Bella sta musica. Partiamo già così? No, no, no, non è questa la sigla. No? No? E invece no, perché siamo in diretta! Oh. Maledizione di Kata, episodio 37. Noi siamo quasi come il podcast che è al 38esimo episodio. No, no, no. Ma non sei neanche, non sei nulla. Eccolo qua, sì, perché... Sì, dopo due ore. Vabbè, ma te non devi stare a guardare questo, non devi stare a guardare questo. O questo. O questo. Va bene. No, facciamo che sennò già fischio. E alta, alta. Voi sapete molto bene che siamo Tycoons and Dragons, ma non sapete chi è questo. Non è vero, perché non l'avete mai visto. Perché oggi con noi Andrea Giacomo. L'ho creato io, Tycoons and Dragons. C'è di cazzo. Cioè, adesso sembra chi è questo? Questo non voce. È legalmente dimostrato. E... cioè, boh. Insieme a me Andrea Giacomo vecchio da Bologna. Questo è tipo Apple, io sono il Wozniak che si è buttato fuori da... Cioè sicuramente Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Marco Bosi, Enrico Bosi, Enrico Gattabriga Master non ecumenico. E, ma, e oltre a questo soprattutto un ospite, ormai possiamo chiamarlo un ospite. No! Assolutamente tutti gli effetti. Edoardo, Erdigno Saladini. Però devo trovare un modo che possa essere visto da tutti. Lascia come sono abituati. Esatto, ma perché lo vedo tipo così. La fa apposta. E ora puoi dire quello che ci volevi dire. Ah, dicevo che però, però lo devi dire forte facendoci vedere la telecamera. Minchia, ma tu hai la telecamera là, io devo parlare al microfono che è lì. Esatto. Adesso spiegami qual è la logica della cosa. C'è. E la logica è che così quelli che parlano più piano no, possono essere sentiti. Non mi hanno riconosciuto perché la mia voce è più sensuale. Ascoltate il mio podcast, il mio salotto. Il mio salotto può essere anche il vostro salotto se lo ascoltate. Su iTunes, Spotify, Google Podcast, sito web miosalotto.qualcosa. Non lo so. E il blog di RipGDR. E il blog di RipGDR. Però potresti mettere un link al mio salotto? Sì, potremmo. Potremmo. Potremmo. Posso farlo anch'io, quindi. In realtà, ho ancora le chiavi. Sicuramente più seguito. Della baracca. E, è vero, anzi, dovresti... potrei anche chiudervi. No. Oggi. Bravo, mentre parli. Bravo, bravo. Episodio su Star Wars, ascoltatelo tutti, ma tanto che cazzo sta lì, ascolta qualcuno. Non lo so, c'è anche questa gente che ascolta il mio podcast. E allora lo sanno già. Allora lo sapete già. Bravo, Sean. Comunque, siamo qua non solo per fare pubblicità a Salla. Questa è la mia scheda. Ma anche per, in teoria, giocare alla maledizione di Kata, episodio 37, se non ci siamo sbagliati. Nell'ultima occasione ci avete visto in due edizioni, prima e seconda parte. Oggi speriamo di farne almeno tre, cosa che non speriamo di no. Certo, Enrico Gattabriga, guarda, ci salutiamo Enrico Gattabriga. Simpatico. Lo so. Siamo molto autoreferenziali. È strano che Emma non ci guardi, allora. Traduzione. Boh, subito dissing. Vieni qua, hai una serie di problemi. Dissing. Yo, bro. Beh, niente. Adesso mi ricorderò come si condivide da qua. Ma voi non vi preoccupate di questo perché potete partire. Già allora, con faccio il riassunto. Bravo. Allora, eravamo fermi. Allora, eravamo arrivati a Parovia. Eravamo fermi al terzo livello. Vez ha portato Irina alla torre. Sì. Ora è morta, però. No, non so un cazzo. Probabilmente. Io ero fermo all'assedio. Niente, abbiamo finito l'assedio, abbiamo vinto. Questa è la, è la sigla del mio salotto. No, no, la sigla del mio salotto è priva di copyright. La sigla del salotto l'ho messa mentre parlava del salotto. Abbiamo vinto, poi abbiamo mandato Arci e Marco a portare gli elfi in una missione diplomatica. Ah, giusto, giusto. Salutiamo ovviamente Francesco Arcidiacono che per ragioni dietetiche non è qui. Ma io mi ascolto davvero, eh? Appunto l'ha detto. Speriamo che la sua dieta possa equilibrarsi presto e che sia di nuovo. Per portare l'equilibrio alla forza. L'equilibrio nella dieta. Noi quindi siamo dal lato oscuro della vita. Assolutamente sì. Siamo i shit. Il mio questo. Lui ha comprato il tuo marchio, non sei contento. Suo marchio. No, questo è... Hai creato tu. Sì, è vero. Però l'ho riadattato prima. È nato da un disegno di Edoardo Saladini. Sì. E se vi state chiedendo chi è lui. E lo dovete comprare su Society 6. Ma è inutile, sì. Io ve lo dico. L'avete già comprato. Invece il mio salotto non ha merchandising, solo tutto gratis perché non siamo open source. Non ricordo il numero della puntata, ma c'è stata una puntata che abbiamo avuto un sacco di visualizzazioni, commenti. Dove? Di Pakistan, di Bob Pakistan. Ah, visto, quella che ha condiviso la casa. Ho visto perché mi è arrivato il resoconto annuale del coso. Ci sono delle visualizzazioni dal Pakistan. Ciao amici pakistani. Assolutamente. Dal Vietnam. Inshallah. Voi sapete 30... che da quando io sarò in servizio a Porto Maggiore, ci attendiamo. È anche una questione di mare. Ecco, se ascoltate il mio salotto, non ci sarà questo razzismo. Sarà peggio. Giulio, comunque, stai andando forte. Abbiamo vinto l'assedio. Abbiamo mandato. Ma certo, ma è ovvio. Ma noi siamo ciao, pieni. Pieni, sembra un po' eccessivo. Siamo pieni di follower, siamo così, ma siamo abbiamo... pieni. Mi sembra un po' l'affermazione forte. Va bene. Abbiamo mandato il druido e il bardo a una missione diplomatica che si è rivelata un po' più complicata del previsto, diciamo, perché sono dei disadattati. Perché è l'unico che ha il carisma alto, non so. In realtà lui ha... sarebbe lui in teoria, però... Ah sì? Sì, sì. Però disadattati... Ah, ma tu conosco la storia degli elfi. Vabbè. Se fosse stato un arcano trickster con la mano magica. Sapeva che doveva anche parlare. Il punto è che sono stati mandati. Che vedeva nel buio. Andate a convincere gli elfi. Ah, batto. Andate e convincete gli elfi che si possono trasferire qua perché la città è sicura. Arrivano. Sì, me l'ha detto. La città è in pericolo. La sediata d'ordine dei non morti. Venite. Sì, me l'ha detto. E d'altronde il suo compagno era Arci, quindi non mi aspetto niente di ecco, per Arci ha giocato bene in quel frangente, yeah. Quindi ti faccio capire il livello. Ma non è la mia scheda. Dopodiché abbiamo organizzato i cittadini lì a fare fortificazioni, baracche, robe così. Siamo andati una volta che gli altri sono tornati con gli elfi all'abbazia, ma non c'è più nessuno tra gli altri che sono scappati. Tra l'altro c'è la scorsa settimana è uscito un episodio di Natale, ascoltatelo, speciale di Natale nel salotto. E quindi niente, siamo nella stessa città in cui siamo da tipo una vita. Ah, ok. E... Natale. Il tempo. La storia è pochissima, è il tempo di gioco, okay. Con gli elfi, quelli della vigna, gli umani rimasti. Okay. E l'obiettivo è andare a stuprare strade o allearsi a strade. Allora, quella è la main quest. Adesso abbiamo due cose. Non c'è un vero obiettivo. Quando abbiamo fatto esatto, quando abbiamo esplorato l'abbazia, io sono tornato nella stanza in cui mi avevano operato. Tu sei ancora un finto animale? No, da un po'. Anche l'ultima volta che l'hai visto tu era già umano. No. Ormai. Sì, in città era un po' già umano. Ah sì? Cosa serve? Storia. infatti non avevo detto prendo il braccio di un mongrel che ho ucciso e inizio a masticarlo come più volte prima. Ah, io non ho i dadi. Li hai venduti. E dopo? Tra l'altro i miei dadi sono a Bologna e non so dove sono. Cosa della scheda? No, le opzioni sono due. Cioè, a Pontecchio. Perché abbiamo incontrato sto zombie gigante che praticamente era posseduto dallo spirito di un paladino. E c'è questo ordine del drago d'argento che fu distrutto a Strad e il cui vertici hanno promesso distruzione a Strad, però tipo la maggior parte dei sottoposti vorrebbe andare contro Strad e ucciderlo, ma il capo dice no, Strad deve soffrire, quindi questa maledizione deve perdurare, quindi non deve morire Strad, deve continuare a vivere questa maledizione. Quindi o andiamo a, andiamo a cercare di convincere il tizio, il capo paladino del drago d'argento a muovere contro Strad, oppure Quello è 30. Simmetrico. 31, 20, 11. Però 10 è di qua. Beh sì, no, adesso si sì. 21, 11. Sei bravo. Cosa stai dicendo, Giulio? Scusa, mi sono stato a guardare, a contarle facce. Sono 30. Oppure esplorando l'abbazia, io sono rientrato nella stanza in cui mi avevano operato e ho di nuovo sniffato il sangue che c'è sul tavolo operatorio. Sul tavolo della sua operatoria lui galattolo di sangue, ormai sei quello sniffa, che ha delle visioni. Ah, perché ho delle visioni. La prima volta non lo sapeva, quindi l'ha fatto così. Come l'ha scoperto? Delle visioni, sì, è stato utile. Ma tra l'altro io ho un sacchetto di questa cosa che mi porto dietro. Fantastico. Ah, passalo, non c'è niente. E ho visto... Ha detto venite, poi ditene tutti. E ho visto la foresta e la torre in cui... in mezzo al lago in cui in teoria era rinchiusa Irina, però io non so se lo so, se non mi ricordo. Io lo so. Sì, lo sapevo. Ah, lo so anch'io. Okay. No, perché mezzo del mio personaggio no. Non si fidava. No, eravamo arrivati a un punto. Quindi in teoria ha collegato che. Chissà perché. Non ho mai fatto nulla di male. Non c'è più. Cioè, di male. Demone, ex figlio del borgomastro che lui aveva ucciso, trasformato da strada, sono scappati via tutti. E avendo avuto questa visione, forse questo angelo demone ha diretto là. Questo era quello che avevamo intuito. Che io vi ho detto. Sì. Avevamo intuito. Ti ricordi quello che avevo ucciso? Sì, no, vabbè. Vabbè, quello si era anche tu. Sostanzialmente... Non c'è problema, sì. Questo... Il borgomastro, sì. O il figlio del borgomastro. Il figlio. Questo è stato trasformato da strada. Quando io ho ste visioni sono collegato al figlio del borgomastro perché ha dei pezzi di me. È stato ricostruito con dei pezzi di me. Quando lui è diventato cane. Quando io ero diventato cane. Sì, più o meno. Quindi se io ho visto... Congratulazioni, è quello che sempre dicevo. Esatto. Felicitazioni. Quindi se hai visto ste cose, significa che probabilmente il tizio stava sorvolando quella zona. Ciao, Jack. Ciao. Scusami. Sono distratto, sarai Jack. Oh, ciao Jack. Non è vero. E io dove sono? Sono con voi. Sei con noi in città, Non so cosa hai fatto in questo frattempo. Ma in realtà abbiamo appena finito di combattere i... Sì, abbiamo ucciso dei Whig che sono comparsi. Si sta annoiando. Sì, esatto, basta. No, sto copiando in pure la boccia di vino, commenta. Sì, sì, perché è quella prima. Sì, salutiamo Laz. Ciao Laz. Sì, è in Polonia. No, non ha messo neanche mi piace alla pagina, tranquillo. Neanche io ho messo mi piace alla pagina. Cosa? È possibile, l'hai creata tu. No, l'ha creata lui, l'ho io, non l'hai messo. No, vabbè. Sì, che l'avrai messo, non dai. So, ma per se ti appaiono le cose di Tycoon su... Non mi appaiono le cose di Tycoon, allora no. Il grande tradimento. Beh, da Lasmelo. Da sì, Lasmelo è quasi il direttore. Tra l'altro con tanto di inviti spammati. Ah, beh, certo. No. Ok, ho coperto tutte le magie, così questo è completo. Va sì, bene. C'è. Bravo. Sono a salvo. Sì, l'ultima cosa che abbiamo esplorando l'abbazia abbiamo un tempo in cui ti combattuto 3, 4, quasi. Quanti erano? Sì, dai. 4. No, 6. Sì. Sei. No, mi toccare. Qualche gruppo di white. Tu, comunque siamo 32. Oh, raga, dove siete tutti 32? Cosa? Qua bisogna ascoltarci. Ma sono anche, no, tuoi amici, ma noi siamo più di 100, E allora perché bisogna essere sono due? Perché sono molti. Ma sono quelli mi piacciono, sai quando devi dire. Ah, 89, 90, 91, 92, 92, oh, 92, sveglia. I pakistani guardano indifferiti. Se tutti voi daste un euro al mese, abbiamo perso tutti i bot pakistani, peccato. Beh, 92. Ne abbiamo persi 8. Abbiamo perso i bot pakistani. Come 92? No, no, 92 sono quelli che mi piace, poi sono 103. Che bello, ma ci sono anch'io nella pagina dello sfondo. Ma che storia, questa è our story. Ma ci sono anch'io. Certo. Devi guardare i follower, sì, non sì, i miei. La copertina. Ma che storia! Ma c'è anche qua. Beh, sì, certo. Devi guardare i follower, non i mi piace. Con i follower di sono 107. Vedi? Beh. I follower sono 107. Va bene, ragazzi. 107. Ah, è vero, 107 follower. Mi piace. Oh, 107 follower, ascoltate il mio salotto. Capitolo Amari. No, cosa? Capo Montenegro e c'ho anche un ultimo arrivo di Amaro Lucano, che non so se vada... col ghiaccio Hai finito la liquirizia? Abbiamo scolato la prima volta. Missione completa. Due sessioni fa ho detto: dai, faccio il figo, prendo un liquore. Ho preso la liquirizia, che è l'unica che non piace a me. Comunque, a tal proposito, il Buca ce l'avevamo potuto il 29 da oggi a da oggi alle 12 PT a l'1/1/2020 c'è lo sconto del 20% su tutti, no, del 30% su tutti i prodotti Tycoons & Dragons. Ah, sai che sì. Cosa è successo? Ah, anche a voi se interessa. Perché lì arrivano il cash, arriva lui diretto. Ma non ditelo, non ditelo. Ascolta, e sì. La barra del capo. Se vuoi questa bellissima tazza, c'è il 30% di sconto. La barra del capitano che va di Montenegro. Se ci arrivano il capo, capo. Fatto io. Marco, tu vuoi qualcosa? Vabbè, ma mi arriva. Non so se hai visto il Celtic, no, sto pensando una tazza. Mi arrivano veramente pochi centesimi, molto pochi. Tu sdinino che vuoi. Io sono Astemion. Cioè, di fatto tutti i centesimi. Tutti i centesimi. Non alcolico. Quindi tutti i centesimi che ci sono arrivati sono di mezzo. No, anch'io ho comprato la Roma. No, okay. C'è gente che ha comprato la Roma. Sì, sì, sì. Veramente? Non tanta, ma c'è gente che ha comprato. Ma 10 centesimi? No, ho fatto 10 euro. Cazzo, dai 10 euro. Che ma sono chi? Un bel po', sono tipo 100 euro. Ma chi è che ha comprato? Lo sai? No, lo so. Non vedi neanche la provenienza, per dire. Cioè, quindi c'è qualcuno no, esterno però, a noi che ha comprato la Roma? Perché noi non siamo su Spotify, ma su Spotify ho scoperto che... se possiamo qualcuno... andare su Spotify? Perché non andiamo su Spotify? Se... Sì. Beh, sì, un podcast per carichi le... Se vuoi, Vez, ti aggiungo. Puoi vedere quelli che ci seguono. È una tazza con che una cos'altro stampa. Ascoltano. Sì, sto pensando. Cioè, non puoi vedere chi sono, stampa. Ma cosa ascoltano. Beh. Cioè, Biagio Antonacci. Ok, vabbè, insomma... La gente che ascolta il mio salotto ascolta Biagio Antonacci. Questo farà calare di non molto. Non lo so, possiamo vedere adesso. Il contrario, perché... la gente che ascolta Biagio Antonacci dovrebbe... Vabbè, perché fate le puntate sapio. Sicuramente per quello. No, oddio, quanti ascolti questa settimana. Oh, è andata la grande la puntata di Natale, grazie, raga. Sì, ma non sei nella diretta del tuo salotto. Ma facciamo pubblicità. Allora, adesso ci sono. Però tu devi fare pubblicità nel tuo Pinguini Tattici Nucleari, Linkin Park, Coez, Fast Animals and Slow Kids. È una band, Fast Animals and Slow Kids. Devo ascoltarmi, ero consigliato. Ed è Zen Circus. Circus. Zen Circus. Ma tu nel tuo podcast quindi fai la pubblicità a Tycoons & Dragons? Sì. Pubblicità. Sì, tra l'altro nell'ultimo episodio su Star Wars. L'ultimo episodio su Star Wars la faccio. Ma è già registrato, c'è uno stato. Sei sicuro? Sì, sono sicuro, aspetta. I dati. Tanto 191. Potreste fare una puntata, a tema fantasy. Vedi, noi abbiamo dei gente dall'Argentina, dall'Austria, dalla Turchia, dal Brasile, però non dal Pakistan, Vietnam. Quelli che sanno lì, stai facendo il figo. No, no, so, siete bravi voi. Quelli che sono più internazionali. Probabilmente. Io. Puntiamo su. Ah, no, è. Avete in programma una puntata a tema fantasy. Dove non ci capiscono. Per imparare l'italiano. No, già però possiamo farlo. Di spade, però. Vabbè, possiamo farlo. In cui citate. Sì, sì, vabbè. Non sembrerei, non è ovvio. Darla senza problemi. No, possiamo fare davvero il cross. Un episodio crossover. Parlando di Bojack, non esageriamo. Bene, voglio vedere volendo se... potremmo mettere il link. Ma cosa fate in questo podcast? Però tu voglio vedere se chiacchierano di cinema. Ah, in realtà il podcast. Hai visto l'ultima stagione di Rick e Morty? Non ho visto il 3 e 4. Ho visto l'episodio podcast... dei serpenti. Che bello. No. Ma in inglese chiacchierano? No, il primo solo. Il podcast di Titans and Dragons in italiano. E quindi gente dall'Austria che vi ascolta. Vabbè, emigrati italiani. Ma anche dalla Danimarca c'è gente che ci ascolta. Vedi, c'è gente dalla Francia che ci ascolta, 22 ascolti, quindi secondo me è Jacopo che ci sta ascoltando. Ciao. Ascolta 22 volte lo stesso podcast. Chi è? No, che è negli ultimi 2 mesi, 3 mesi. In Francia. 22. Ma tu con Spotify non puoi mettere dei link o cosa, no? In che senso? Associati, perché tipo noi possiamo mettere il link al mio salotto, però tu non puoi su Spotify non puoi fare niente del genere, mi sa. Sì, sì. Chi aveva il capo? Tra l'altro penso che su Spotify puoi anche scegliere. No, due? Non so. Io sì. Io non tenico. Allora adesso tu metti un link di un'altra cosa, lo puoi fare. Io accetto il random, qualsiasi cosa tu voglia. come all'episodio no, non puoi commentare. Allora, puoi scegliere o niente o una cosa o l'altra. Se tu vai sulla nostra pagina. Vabbè, raga, dai, cominciamo. C'è entrato nel personaggio. C'è gente che ci ascolta e si annoia. Hai ragione. Bene, dobbiamo aspettare mezzo. Oggi abbiamo fatto la prova della scheda di Lex Arcana. Così complicato. No, è lui che non ha letto metà delle cose. Ce l'ha, però. Non hai studiato. È l'albero dei talenti. No, questo sono per i punteggi. È per la creazione iniziale. Questa è la scheda. Sì, ma questo è quello che fatto. Dobbiamo ancora valutare se dare qualche cosa complicata. Sì, la creazione un po'. Non posso avere più di 18, cioè. E non posso avere meno di 3, ti rendi conto? Si lamenta di sta cosa. Max è bravo, ci fa così. Sì, ti metto su Spotify. Siamo no, dietro. Bisognava vedere con come si chiama il Facebook game qualcosa. Sì, vabbè. Come si chiama? Level up. Level up, esatto. No, però mi serve, lo faccio domani. Lì puoi fare le donazioni agli streamer. Bel bicchiere. E quindi puoi vedere chi dona e quindi chi si mette. Marco, quando hai scelto, fammi sapere. Quello che vuoi. Se qualcuno ci sta ascoltando, preferisci il ramaro del capo o il Montenegro? Ammesso che tu gli abbia mai assaggiati. Non gli ho mai assaggiati. C'è anche così. Fai mi schifo. Bene, mix. Facciamo domani alle 17. Ti do un capo così. Cioè, mi sa che lo finiamo. In aeroporto domani. Va benissimo così. Domani in aeroporto faccio richiesta col computer. Per metterci su Spotify. Ma sì, posso prendere alle 11. Ci sta su Spotify. Sì. Siete in aeroporto assieme. Non pensavo si potesse. Un 2019 pieno di critici. 2020 magari. No, quel numero porta sfortuna. Esatto. Rezza, hai una cannuccia così possiamo andare allo stesso bicchiere. Sì, una, due, dai. Almeno la cannuccia. Quelle curve a forma di cuore. Che si incrociano. Esatto. Bene. Siete in aeroporto assieme domani. Chi? Tu e mio fratello. Ah, che ora vai? L'aereo parte a mezzogiorno. lui stamattina va e andiamo alle 9:30. Mezzogiorno, allora ci vediamo. Vabbè, tu lo porti in aeroporto, lo lasci lì e torni indietro. Sì, non lo porto io, lo porto mia madre. Onestamente, alle 11:15 chiude il gate. Quindi forse verso un po' prima dell'1. Che bello. Non ci sta. No, non ci sta. Cioè, lui ce l'ha prima dell'1 e va alle 11 perché credi che me che volevo andare alle 9. No, so. Ah, l'ultima volta che ho preso un volo sono andato lì alle... Poi la mandi a Laso, penso. Le foto di Laso quelle... Non riesco... Va bene, vai avanti. Vai, adesso quando in qua fate quello che vi dico io. Da troppo tempo purtroppo. Tu poni un'idea, sì, poi noi la sviluppiamo. Ok, perfetto. Allora io prima che lui parli uso Misty Step per tornare sopra dai contadini. Sopra i contadini. Dai popolani che erano con loro. Non è vero, abbiamo conquistato la città. Sì, abbiamo liberato il... Cioè l'abbiamo già fatto ma non lo abbiamo liberato l'orto dagli Wit. E anche l'abbazia è nostra. Ah, è vero, dobbiamo fare il concilio. Sì, esatto. Dobbiamo fare il concilio di guerra. E ci sarai anche tu nel concilio. Sì. Così al, al posto di Sheo. E dico, andate. Diffondete la parola. In realtà ci vuole un bardo. Il Lord misericordioso Azazeth che vi può dare potere. Bla bla bla. Il bardo è una cosa con vantaggio. Un persuasion con vantaggio. Non so cosa stai dicendo. Sto dicendo qualcosa. Non mi so. Lui parla con i popolari che sono lì. Sì, ma quindi 26. Portate il bardo invece che me. Sono molto impressionati. E tra di loro. Mi ricordo che avevi fatto tipo si prostano nel concilio. Scusa. Nel concilio, adesso c'è la riunione del concilio della città. Quello è il Game Boy. Per comodità tra popolari. Nel concilio abbiamo quid quod e quad. È garantito in teoria il concilio. Il muro non gli si rompe. In teoria è garantito 3 metri di caduta. Minchia, che botta. È figo però. Quid quod quad. Mi piace. Diciamo non era partito il podcast. Fatto che non c'è la sim, non lo so. Non lo so. Vabbè, lo puoi prendere l'audio dal video. Ma scusa, non da 24 minuti. Sì, però non era collegato. Non ho ancora messa. Quindi benvenuti amici del podcast. Perché ho due sim e non ho voglia di configurare. Non lo so, vabbè, poco importa. C'è Sal. Riassunto fino a qui c'è Sal. Non era collegato, quindi secondo me non ha registrato. No, lo riprendiamo dal video. Bene, per una volta tanto quelli del podcast avranno qualcosa in meno di quelli della diretta. Vabbè, nel caso per vabbè, ricordare abbiamo cazzeggiato, abbiamo chiesto da bere, abbiamo fatto il riassunto della puntata precedente, che se l'avete ascoltata siete dei bravi, lo sapete. E abbiamo fatto promozione del mio salotto. Ah, giusto, abbiamo fatto promozione del mio salotto, questa è la cosa principale, siete fatta più di volte. Puntata, ah, sì, ti ho nominato? Chiunque tu sia. L'ultimo episodio. Dai, da questo marketing. Va bene. Comunque, sempre episodio 37, la maledizione di Katta, dai, con Sandrego. Dovresti vedermi al lavoro. E ma è il momento del concilio della città. Il concilio della città, nel concilio della città ci siamo tutti. Tranne Shiro, la città. Più. Una stanza. Più. No, quelli sono. L'ultima volta ho detto una cosa stupida. Gli invitati sono. L'ultima volta. A una sola forse. Martinkov delle piume dorate. Il guardiano delle piume. E. Perché scappano? Perché sono dei corvi mannari. Qualcuno se ne frega. Ah, ok. Casimir. Sei sicuro? Sì. Sì, ormai quello. Poi c'è. Jar Jar Binks dei Elfi. Fingol degli elfi, per gli elfi piumati. Mime pare un po' razzista. Sembra tu questo razzista. Esatto. E poi c'è i tempi anche, quelli di Jar Jar. Non mi ricordo se avevo scelto il capo dei mongrel o un popolare. No, no, hai chiesto chi era secondo i popolari. Ah, popolari. Pietro. Pietro. Esatto. Pietro che nel frattempo è diventato e poi c'era Pietro Pietro il Grande. Di Kretsk. Pietro il tredicesimo. Quanti siamo? Oh mio Dio. Saldo dice. Siamo 3, 5, più c'è Arci 6. Martico 7. No, ce la siamo. 8. Kevin 9. Ma è uno dei mongrel. Era no. Degli elfi. Era degli elfi. 4 popolari. Capo degli elfi. Sono 20 elfi. Vabbè, devo invitare le altre 2 o 3. Avviene immediatamente dopo alla. Le famiglie. Alla liberazione dell'abbazia o c'è un riposo in mezzo? Cosa? Questa scena, il concilio avviene immediatamente dopo la presa dell'abbazia. Io li chiamo lì, nel frattempo noi ci riposiamo. Beh, il tempo, un riposo breve, il tempo di organizzare una sala. Va bene. Sala, no? Lo stesso giorno per dire. Sì, sì, subito dobbiamo farlo. Ma tanto noi non siamo mica messi male, siamo messi male? Più o meno. Tanto riposiamo la notte e poi andiamo. Io sono full. Tu sei 29. Sono 29. Io sono full. Beh, non so quando ci mettono a aggregarsi. Un'ora. Che è un riposo breve? Sì. Va bene. Vabbè, facciamo sto riposo. Scusa, quanto siamo ridevo io. Scusi. Lancio qualche dado di riposo. Tu sei a 57. Sì, tiro 3 dadi. Ma riesco a distruire i popolari su come fare il rituale, eccetera. Beh, in così poco tempo sicuramente no. Però no, diciamo li puoi dare un'infarinatura e cominciare a piantare un seme. Non mi ricordo mai cosa abbiamo detto, bisogna tirarne 3, 3, 4, 3 dadi, 3. Questo, tu puoi tirare quelli che vuoi, sì, ma ogni riposo lungo ne recuperi la metà del tuo livello. Che sarebbero 3. Esatto. Quindi dovrei poter tirarne 4. Io tiro di 10. Ho un voto su. Quando sai di livello. Puoi tirarne quanti ne vuoi. Poi quando dormi la notte ne recuperi 3, quindi te ne 12. Ne mancheresti uno, però. Chiaro. Sai, merda, sono... barbaro! Sì, è sempre stato il di 12, capito, cazzo. Ho un sacco di livello da 27 sessioni, non lo ricordo più. Gioca sì. Questo gioco solo da... Ha ragione anche lui. Il 2006, sì, 2005. Io sono 14 anni, 13 anni. Ho detto, sai che quello è un iPhone? E allora? Usarlo come appoggio dati, ti sembra... Non frega, se te ci metti le robe qua. allora, e quello è un iPhone. Anche l'iPhone di Luz è stato usato come appoggio microfono. Aggiungine 27. È vero, sei stato tu che l'hai distrutto. 27, aggiungine 27. Ecco, non fallo. Hai rotto l'iPhone di Lazio. Diciamo, gli ho dato il colpo di grazia. 15. Io hai detto che sono 29. Cazzo. Fatti anche curare. Però hai 57 di massimo. Ah, è vero, sono una merda. Fatti anche curare. 27. 27 sono 57, ma fatto i white diminuivano il massimo. Ma si ha detto che si recuperava quello riposo. con un riposo, non mi ricordo se basta. Sì, so, ogni tanto sì. Volta, sì. Per cercare di farmi ascoltare di 27 ne recupero no. Con 4 okay. Dadi. Con 4 dadi. Devi segnarti 4 dadi. Almeno io me li segno io. Ok. No, sei a 56. Sì, perché uno non ha senso. Devi segnarti quanti ne usati. Bravo. Segnarti quanti ne usati. Io invece non recupero nulla. Ti ricordi? Sì. E tu perché sei full? La riduzione di PF dura fino a che non completi il riposo lungo. Comunque ne avrei recuperati tre. Io faccio, dopo il riposo breve, faccio second wind, così mi recupero. Ah, perché il pugnalo e il warlock. No, ogni riposo breve tanto lo posso fare. Ne avrei recuperati a metà. Sì, dico, la prossima volta che riposi ricordati che te ne rimane uno ancora usato. È un di 10 più fighter. Più livello. Ogni volta che fai un riposo lungo recuperi 3 e sono 16 cioè, e vado a 66 su 69 al prossimo riposo ne recuperi 3 ne rimane nice. Uno usato così a gratis cioè, a gratis adesso fino a che non fai un riposo non ce l'hai più sì, prevedo di non combattere diciamo cioè, fino a o 7. Che non mi servono sono tutti dati 4 ne rimangono 3 che sono i 3 che recupererei durante il riposo canta capito prevedo che sì, non mi però adesso quando riposerai ne recupererai 3 di quei 4 quindi ne rimarrà uno usato per quello che devi segnare. Ah, ho capito, capito adesso. Ah, ok, no, allora non l'avevo capito. Vabbè. Giusto? No, quando fai un riposo lungo, recuperi 3 in questo caso, basta che tanto sia sempre del tuo massimo. Di quelli che hai usato. Ah, ma ho capito sì. Adesso. No, del tuo massimo. No, del tuo massimo. Se hai 7 dadi vita, ne recuperi 3. Sì, però io ne ho usati 4, lui ne ha usati 4, ne recupera 3 e ne rimarrà uno comunque sì. Segnato. Voto. Sì. Ah, ok, adesso ho capito. Va bene, perché ok, inizia il consiglio. Se salissimo di livello, ma non, nessuno lo ha mai preso. Esatto. Infatti, che problema c'è? Siamo al massimo, no? Sì, è al massimo livello. Hai messo mi piace la scorsa volta la diretta. Perché? Se arrivavamo a 10 mi piace, ci davamo niente. Ci fate scrivere. Io ho scritto il Thunder voi ci mettete un mi piace. Ero ubriaco. Se arriviamo a 10 mi piace, ci davamo. Ero sicuramente ubriaco da qualche parte. Siamo arrivati tipo nel senso quando tornare 7 di cui no. Tipo 4 nostri. No, siamo arrivati a 7. Considerato che 4 erano nostri. Beh. Ero sì, invece mi allora mi stronzano. Capito? E la tolto. C'era all'inizio la tolto. Lo mette sempre se lo rilasci poi non torna più. No, non so se posso rilasciarlo se è bloccato, eccetera. Tipo lo posso pugnalare di portarmi il libro e andare nel piano dei da dove proviene il viaggio planare è bloccato. Parla di viaggi planare non lo so credo che voglia so, evocare qualcosa ok hai ragione e voglio vedere che cosa succede e gli dico di portarmi lì cosa succede. Va bene organizziamo il concilio dove lo organizziamo? Dentro l'abbazia ovviamente la sua tra virgolette sì. Anima nel... rimane bloccata no, la barovia mettere a posto no. Quindi lo rievoco e dopo il concilio lo facciamo prima. Lì per una questione pratica sei inutile è un attimo un tavolo una cosa dobbiamo farlo mettere sarà quelli spaccati a voi almeno come sono spaccati non chi li mette a posto okay. Nessuno i popolani non c'è tempo vai a fare il concilio okay. Poi dopo gli diremo allora. Mettetele a posto che questa sarà la nostra torre facciamo un concilio in piedi sarà in cortile allora. Facciamo alla signora degli anelli tante sedie in mezzo un tronchetto con un con un anello col casco di Darth Vader vabbè sistemiamo il casco di Darth Vader non è che okay. Sei impazzito perché tu non sei invitato no, dai facciamo questo concilio cioè, così ha detto che ci sono tutti cioè, anche lui, tutta ragazzi. La storia di Skywalker è stata inutile lui dice di non essere stato invitato grazie a quest'ultima trilogia basta ok ci siamo basta. Tutti ci siamo no, tutti no ma l'ultimo film mi è piaciuto però di fatto rende inutile inutile cioè il prescelto non il prescelto chiamate anche il signor Speranza lasciamo i mongrel a fare la guardia sulle mura il capo dei mongrel doveva essere no ho scelto Pietro no sei tu il capo dei mongrel sono io il capo dei mongrel il mongrel supremo dica signor mongrel è l'assedio primo mongrel ha suonato un corno che era lungo le mura e a quel punto i mongrel lo seguono Casimir sì, annuncio ufficialmente l'inizio del primo concilio di Kretz che cazzo fa? L'annuncio io appunto il suo Casimir zitto dice qui parlo do parola al magnifico Vardistran signore magnifico dei mongrel amici amici signore dei 12 mongrel che non abbiamo sterminato amici tanto lui è signore di qualcosa benvenuti vabbè, noi siamo signori e basta. Questo sarà il primo concilio di Kresk liberata. Wow. Che si chiamerà? Kresk. No, Vardigrad. Questa... il tuo nome cresca Mongrel, chiamiamo Irina, siamo per la tradizione. Irina Cresca è un moderato, non vuole fare nuova Cresca. Questa sarà una nuova Cresca, ma rimarrà sempre Cresca nella chiamiamola Regno di Strad per non incasinare Stradgrad, così alla fine Roma 2700 anni. Stradingrad, sì. Abbiamo conquistato la città e l'abbiamo liberata dal male, ma non dobbiamo illuderci che il nostro percorso sia finito qui. Vino. Poiché fuori da queste mura il male continua ad albergare, e anzi, sono sempre più potente. Soprattutto nelle foreste. Ora... c'è... sbagliato. Io picchio il barbaro. Beh, il mare è vicino a noi. Suona lui. È molto vicino a noi. Non si sa. Io e i miei compagni di avventura dovremo presto tornare sulle piste del maligno per cercare di stanarlo una volta per tutte. Ma il percorso sarà lungo. Qui però è importante che rimanga per noi un porto sicuro e che la pace... Scusami, altra parola, va bene. Beh, va. Perché? È pieno d'acqua. No, vabbè, questi porti sicuri, porti aperti, porti chiusi. Si prestano a troppe battute. Va bene. Ma catta sempre lì. Sì, esatto, lo so, non ci posso fare niente. Vai, vai. Ragazzi, ci seguono i pakistani. Adesso ci invado. Ciao, ho detto un porto sicuro, non porto maggiore. Oh, e... che anche lì acqua. Vabbè, perché ci passava sì. Il Reno. C'erano anche dei fossili. Anche dei fossili. No, perché era una portuale. Quando è stato anche a Bologna c'era il porto dai pakistani. Una volta qua c'era tutto acqua. Comunque, in realtà c'è ancora, solo che sopra c'è costruito la città. Come alcuni di voi avranno notato, beh, non come venite, ascoltate il povero Mario. Come qualcuno di voi avrà notato, abbiamo accolto nella nostra città, ormai nostra, nella mia città, la comunità degli elfi di Fingol. Anche perché sono quattro stronzi. Loro si trovavano vicino Vallachi, ora Vaktargrad, vestati dai Vistani. Questo serve come monito. Questa non sarà una città di Vistani. E, capito, zingari. Ed è molto importante che le due comunità, ci stava il razzismo, quella umana e quella elfica, ma il nuovo stemma sarà, convivano pacificamente tra di loro. Quindi, con un soldato in armatura con la spada in alto. E abbiamo lasciato. No, blu adesso. Adesso blu. E abbiamo lasciato. Non è più Lega Nord, è Lega per Salvini Premier. Abbiamo lasciato che Salvini entrasse. No? Pensavo di raccogliere un po' di attenzione. E abbiamo lasciato anche che arrivasse da noi il nobile Martinko con la sua famiglia. Poiché la loro vita hanno il vino è risulta distrutta. Beh, poi ci hanno aiutato tanto. Esatto. Ed è quindi importante che queste realtà convivano pacificamente per mantenere l'equilibrio e la sicurezza di Crete. Rifiuti. Dai genitori. Genitore, con la plastica dove poter fare ci. Ed è per questo, siccome noi presto ci incammineremo, e forse anche Casimir verrà con noi, che lasceremo il controllo e l'amministrazione della città a voi tre. Martin con Fingol e Pietro, poiché voi siete l'espressione delle tre realtà della città e dovrete lavorare in comunione e armonia per mantenere la pace e soprattutto la sicurezza della città. Martin, la tua famiglia e la tua attività potrà trovare spazio in questa abbazia dove ci sono campi già preparati per la tua vigna. Penso che sia una buona soluzione. Vi chiediamo però di sistemare la torre dove ci troviamo adesso per noi come rifugio per quando torneremo. Detto che, se volete utilizzare questa sala per le riunioni cittadine, può essere una cosa carina. Sei debitamente arredato. Sentitevi liberi. Non c'è fretta, però ovviamente vi lasciamo questo compito tra le varie mansioni. per la comunità di Fingol. Per ora l'abbiamo alloggiata vicino al lago, penso che sia un buon posto per loro perché è in mezzo agli alberi, però se volete pensare a una soluzione diversa, siete ovviamente liberi di discuterne insieme. Se gli escrementi almeno non lo fate in città. Però è importante che la comunità torni a essere produttiva e diciamo a vivere la vita quotidiana quanto più normale possibile. Vi lasciamo ovviamente anche il controllo dei mongrel, che potete diciamo comandare col corno, quello che abbiamo capito, per almeno pattugliare. Però ecco, consiglierei la creazione di una vera e propria guardia cittadina, magari mista tra uomini ed elfi, così da pattugliare, e corvi, così da poter tenere quanto più possibile in sicurezza. Poi noi rimarremo in contatto, forse Martico, esiste un modo di rimanere in contatto con qualche tuo emissario? Sì, potrò farvi accompagnare da uno dei miei amichetti alati. Esatto, così nel caso noi vi manderemo dei messaggi e voi siete... quel corvo ci segue! E voi potreste, cioè possono essere in contatto i vostri corvi... Quindi eventualmente uno ci può raggiungere sapendo che l'altro è con noi? Avete questo potere supremo? Bisogna vedere di che distanza stiamo parlando, però negli immediati dintorni di Kretzk è possibile senza problemi. La se dovesse andare molto più là. La nostra volontà in questo momento è anche cercare di capire se possiamo in qualche modo ritrovare, sperando sani e salvi, Varrichten e Smeralda, a cui sicuramente alleanza ci... Sì, credo anch'io sia una delle nostre priorità. Perdere quei due alleati di quella portata potrebbe essere un brutto colpo per la nostra alleanza. Posso avvicinarmi a Vezze e sussurrare, cioè chiedergli una cosa a bassa voce? No, devi parlare al concilio. Posso andare in bagno? No, lo faccio. Parla al concilio! Non mi impiastricciare l'orecchio, sgherro! No, gli chiedo a bassa voce... Puoi parlare del fatto che stiamo cercando il tempio, magari qui ci sono informazioni che possono tornarci utili. No, cioè nel senso non magari credo. I corvi sanno qualcosa in più, ma credo che ne avessimo parlato. Non mi ricordo, ma l'unico che è tra virgolette esperto è Casimir. Vabbè, sì. Però nel senso possiamo spargere la voce con queste persone fidate. Dice, di cercare informazioni. Ma ne avevamo già parlato con Martin, non c'è motivo. Ci sono gli elfi, ci sono tutti, magari messi insieme. Per il momento secondo me non. Vi dico, ho fatto bene a dirlo a bassa voce. Esatto. No, nel senso, vediamo. Intanto il primo obiettivo... Il pericolo è anche di far sapere a troppe persone dove state andando. Noi diciamo che andiamo lì. Poi in realtà la prima cosa che faremo probabilmente è andare dalla torre, perché se ho capito la situazione è critica. Beh, c'è cioè Irina. Sì. Vabbè, è protetta. Vedremo. Non è protetta. Però vabbè, adesso io lì dico che andiamo, facciamo questo. Poi se uno vuole aggiungere qualcosa è libero. Se voi tre avete dei suggerimenti, delle cose, direi che questo è il momento per parlarne. O tacete per sempre. Ottimo discorso, Lord Vardistran. Se segni un'inspiration. Sono Lord Vardistran. Ti faccio un applauso quando finisci di parlare. Gli altri mi seguono. Però è uno slow clap. Però è a bassa voce. Salutiamo Alessandro Jimmy Musghi, Lord di Jimmy. Lord di. Io picchio che non applaudo. Sì. Picchi una prova. Ascolta il mio podcast. Sei citato. Ti cito nell'ultimo episodio. Il mio salotto. Spotify e iTunes, Google Podcast. Salotto. Sito web. Il mio. Salotto. Pietro è carichissimo, dice sì, spacchiamo il culo. A chi devi fare? Infatti il è un po' imbarazzante. Il carpentiere. Almeno porta un po' di vivacità. Guardo male Pietro. Non se ne accorge. gli faccio. Non se ne accorge. Vado dietro e gli tiro uno scappellotto. Non se ne accorge. E lo infilzo con la spalla. Lord Pietro. Martinkov, ti ringrazio per l'ospitalità. E Dice però che ultimamente se sono, sono diventate molto più pericolose le strade dalla vineria fino a qui. Quindi potrebbe avere bisogno di aiuto per finalizzare il trasloco dalla vigna fino a Krezka. La vigna deve essere citata per... Se non ricordo bene, se non ricordo bene, Fingols che era detto disponibile alla sua comunità a darci aiuto se... in questo tipo di, perché un contragitto che si riesce a fare in mezza giornata, se non ricordo. Sì. Quindi potreste farlo durante le ore diurne e sareste sicuramente meno dietro rischi. Anche i tuoi uomini potranno aiutare a far parte della roba. Bisogna che nel frattempo qualcuno difenda la città. Dobbiamo anche recuperare. Chi è che ha votato entrare nel consiglio? Fuori dal consiglio! Un misto di tutti e tre. Dobbiamo anche recuperare il adesso. Sì, esatto, cioè, sì, anche lì vedete voi come organizzarvi. Noi in questo momento penso che dovremo svolgere altre attività. Però se Fingol è disponibile, sicuramente ci libera tempo per cercare Varrichten. Sicuramente Fingol dice li possiamo aiutare in questo gravoso compito, per quanto appunto il rischio è quello di quando si muove molte cose, molta gente tutti insieme, è più difficile passare inosservati, questo di sicuro. Certo. Li devono ripopolare. Li vedete l'eugenetista. Lui è... Scopate! Lui arriva, venite! A Kreske, che è sotto assedio, ma ci sono le donne e il vino. Ho provato a parlare con i miei anche per la richiesta del rintracciare il passaggio dei mannari che avete chiesto. E, molti si sono tirati indietro perché hanno paura. Sono dei vigliacchi. E, sì, avevo fatto la reprimenda. Sì. No, avevo fatto proprio tipo ci avete deluso. Lo sono preoccupato invece per Silvafil. La bollizza. L'avete. Lo ha conosciuto. No, è stato ieri a Tai. Perché ha avuto un chiamiamola un diverbio con il signor Patk e sfortuna al nostro villaggio. E se un elfo molto orgoglioso si è sentito ferito nell'orgoglio e ha voluto dare insomma prova di essere un prode guerriero, e quindi non lo troviamo più, temo si sia incamminato per andare alla strada per andare alla ricerca delle tracce che avete chiesto per dimostrare il suo valore. Quindi sono un po' preoccupato e vi chiederei se riusciste magari. Noi abbiamo chiesto a loro di cercare le tracce, ora loro chiedono a loro di cercare recuperate chi ha cercato le tracce. Sì. Beh, tanto la direzione sono preoccupato, è morto. Se lo troveremo bene, però noi sì, è in questo momento. Domanda, la direzione di quelle tracce è verso est. Sì. Cioè il tempo per noi è voi in teoria è di strada. Cioè no, il tempo per noi in questo momento è un po' tiranno. Chiaramente se lo troveremo volentieri lo accoglieremo con noi o gli daremo scorta per tornare in città, però chiaramente diciamo che in questo momento dobbiamo anche fare altre cose. La direzione è la però stessa, se lo troveremo sicuramente gli forniremo protezione, ecco, questo sicuro. Vi ringrazio. Prego. Bene, quindi partite subito allora. Okay. Sì. All'indomani il tempo tiranno, però tempo tiranno, ma essere riusati per dipende che giorno, che ora è. Vi chiediamo di chiedo a quando di vabbè, partiremo alle prime luci dell'alba. Alle prime luci dell'alba partiremo. Se sarete così gentili, Pietro, sono dei cavalli. Facci preparare dei cavalli. È una playlist. Ma sono non hanno animali, li hanno mangiati tutti. Facci per preparare dei viveri. Non abbiamo cavalli neanche. Marti hai un alce. Tu puoi evocare. Nella vineria. Tutti. C'è quello che ha trainato il carretto. L'alce è grande, può portare due persone. No. Vabbè, andremo a piedi. Abbiamo arci e abbiamo un alce. Però siamo in di più. No, altrimenti, scusa, allora Pietro, preparaci una playlist musicale. Esatto, Pietro, preparaci una un disco. No, di prepararci le provviste per il viaggio. Chiedo a Pietro di caricare i popolani e prepararci le provviste per il viaggio. Ah, perché dicevo, la mattina passiamo a prendere i cavalli e andiamo, però sono 6 ore ad arrivare alla vigna. Però qualcuno non può andarci mentre noi riposiamo. Abbiamo, oggi. Abbiamo freddo. Posso andarci io? Mentre noi oggi riposiamo. Ti ho appena detto che la zona è diventata più pericolosa. Non posso andarci io. No, non puoi andarci. Va bene così. Perché? Potrei andarci io, ma non posso andarci. Detto che è pericolosa, non posso andarci. Oddio, sì, saremmo stati più veloci però quei cavalli. Ci mettiamo una vita senza cavalli a girare. Ma se alla fine dobbiamo andare nella foresta. Beh, ma scusarci, puoi evocarli però i cavalli. Sì, se solo fosse qui. Beh, dai, faccio evocare, catta. Se solo fosse. Dovete soffrire, non l'hai capito. Allora. E poi quanto cosa dura? Un'ora? No, nessuno ha una pozione di enlargement da usare sul gufo. No, vabbè, andiamo a piedi. No, mi dispiace. Vabbè, chiedo a Pietro di organizzare i crezchiani perché ci preparino le provviste. E anche dove dormire. Sì, signore. E poi sarà molto importante che sistemino la porta d'entrata. Vabbè, per il momento ci alloggeranno in qualche casa loro. Quindi il lavoro principale, c'è la casa del borgomastro. Spiego a Pietro che il lavoro, uno dei lavori più importanti sarà sistemare la porta d'ingresso alla città. Io dormo nell'abbazia. C'è solo una porta, era vero? Tre piani. Sì. E di presidiarla, ovviamente. E poi dovranno sistemare anche un po' l'abbazia, sentire dai Martinkov, Lala, tutta dei mattatoi, eccetera, come farla. Nessuno se ne frega. È sparita? No, è un caso. È un caso, però nessuno è tipo delirante, mezzo pazzo. Tu la volevi uccidere? No, non sai così. Ah, e vabbè, posso dirlo, una cosa importante, cercate di prendervi cura anche della moglie del borgomastro. Ah, che... adesso. Vabbè, che ne hai parlato. Ne ho parlato anche altre volte. Vabbè, hai esposto al concilio il tuo problema e ci sta. Cercate di darle una degna sepoltura. E volevo dire di... Pietro ha detto che adesso alloggia insieme alla nutrice di Kretzk, che se ne prende cura e cerca di... Molto bene. Farla risalire. Però molto bene. È molto provata dalla... In sua assenza, Pietro, potrai prendere tu la casa del borgomastro. Riparare il tetto. No, dipende. Sì, cioè, sì, dai, ci sta. Perché Martinko poi si metterà qua dall'abbazia. Penso. Sì, con la vigna. E gli elfi stanno sugli altri. E gli elfi stanno dall'altro. E lì hanno tutta quella parte lì. Ma questa non è integrazione, no. Questa è ghettizzazione, però. No, io dov'è? Come cos'è? Dov'è la città? In dribble, è un fantasy, è normale. No, sì, no, dov'è la mappa? No, intendo la mappa. Un elfo in ogni casa di prima là. Devono riprodursi. Come in Dreamland che segregano. Allora, i Martinkov dall'abbazia, la torre però è nostra. E poi c'è la puntata in cui c'è. No, ci sta, è perfetto quello che. Questa sala, questa torre però c'è la dove fanno sistemare per noi. Che è tutta l'acqua marcia. E no, ma sono elfi nelle stalle, no. Intanto sono vuote le stalle. Tutta questa parte qua. E degli elfi. Sì, fino alle prime abitazioni. Fino un po', lasciamo un po' di spazio all'abitazione, tutta per gli elfi e loro. Hai appena detto che li vuoi far vivere in armonia, adesso li vuoi ghettizzare. Che ognuno faccia quello che vuole. Un elfo per casa. Sto dicendo che quella parte lì dell'acqua la possono diventi. No, la possono utilizzare come. Cioè, se vogliono costruire delle case, delle capanne, sono liberi di farlo. Sono 20, cioè. Sono 20, un elfo per caso, se vogliono costruiscono case loro. No, poi è chiaro che se con gli altri due trovano una situazione migliore, sono liberi. Cioè, secondo per me possono anche stare in mezzo, cioè perché farsi le case in mezzo. Se però vogliono stare tutti insieme, secondo me è perfetta come zona questa qua. Lì sono liberi di fare come cazzo gli pare. Posso un attimo. Per non rompere l'ordine. Ok. Lo fa spesso. Pietro dice, va bene, guarda, strano, è tutto quello che dirà. Saggio quello però che dice come al solito. Ma l'hanno fatta partire, bravo. Sono preoccupato che con tutta questa gente... No, però l'altra volta mi sembrava più forte, adesso mi sembra tranquillo. Ci sono 28 case e 20 elfi. Ci Li tagliamo qualcuno in parte. Non sai quali sono case, quali sono stalle, quali sono botteghe. Le stalle sono morte. Esatto. È un po' buio. Bardister, sono preoccupato che con tutta questa gente a Kresk le provviste finiscano subito. Merda, dovete coltivare e cacciare, brutti animali. È così, dovete assolutamente rendere la società operativa, produttiva. È facile dirsi. Si chiama agricoltura e allevamento. Nostro, no, e qua non è, abbiamo conquistato la città, ma non significa che sia semplice gestirla, però sta a voi. Vabbè, si parla di mettere insieme meno di 100 persone. Adesso arrivano anche le vigne. Io consiglio che una parte tanto della gli elfi città, mangiano erba. Che una parte della città io nelle stalle. Esatto, al limite ha mangiato un elfo. La parte della città. Da questo lato. Vicino alle mura venga disboscata e gli elfi per essere trasformata spazio in campi. Campi io di pensavo industrie pesanti, però no. Così otterremo due importanti obiettivi. Uno è scavate la montagna. Uno, noi siamo entrati grazie al fatto che era facile imboscarci. Ci servono armi, armature. Così comunque questa parte sarà più semplice. Se avete problemi di alimentazione, basta che vi ammazzate un po' tra di voi. E gli lasciamo arci. Era per evitare questo. Gli lasciamo arci. Ma scusa, i Martin come devono arrivare con le provviste? Ce ne servono parecchi. Eventualmente, vabbè, Arci può anche stare indietro e sì, gli dà gli animali da soldi. Quante persone tanto ci non saranno, c'è qua con il massimo la gli arcieri sono gli elfi sono abili, gli arcieri possono anche cacciare. Solo due mani. Ok, hanno paura. Beh, subito fuori da qui. 80, 90. Senza addentrarsi. 92, diciamo. Ho capito, un centinaio. Un centinaio scarso. Mangiano alla fine. No, chiaro. No, è ecco, chiaro ovviamente che non sparate in bisogna lavorarci. Cioè, io consiglierei la prima fascia boschiva di toglierla. Capito, e non è che campi. Prima del coso loro cosa vivevano di aria? Ma non hanno più animali. Ma sti cazzi, ma sono di tipo cacciasse. Una comune, cioè erano tipo lì che si facevano delle canne. Sì, sì, sì. Ci sono gli elfi possono foraggiare nella foresta. Ci sono nel corpo. La batti vola. Il che è vero. Una. Ci sono nel cortile i conigli. Io bro. Si mettono ad allevare i conigli. Sembra un animale. Quelli che hai ucciso. Ne ho ucciso uno, In realtà sono persone normalissime. Sembra tutto storpio. Tra l'altro c'è il lago, quindi così, ci saranno dei finalmente pesci. Potrà essere riconvertita all'industria della cannabis. No, però secondo me se togliete la prima fascia boschiva più in facile da controllare anche per le guardie e poi ci fate dei campi. Le guardie controllano fuori, non eh? No, no. E i campi si fanno non fuori, sarà fuori facile. C'è la scaga e se volete non farli sarà fuori facile, fatele fuori. L'unione fa la forza. Ah, c'è pieno farete di alberi dentro, sì, cioè non ho mai visto una città così. Fuori, portarsi dietro gli umani. Ma lui fa sia dentro che fuori. Abbiamo i conigli. Ho capito, è tipo la norma, cioè brutti ritardati. Esatto, cioè, ragazzi, avete vissuto fino ad oggi in e qualche poi, modo. E poi comunque l'abbazia ha tipo un sacco di roba qui, cioè... Sono i conigli? No, beh, ci sono... Ci sono anche i conigli. I conigli. Sa, tipo gli ulivi, c'aveva delle robe, vi detto. No, c'è la neve e le tombe. C'è un orto. Scusa, non c'è anche i corvi? Sì. Insomma, ci sono i vostri alleati, stai dicendo. Non sarà semplice, ma dovete così... Se oh, no, Corvino. Ragazzi, cioè, c'è un orto, ci sono i conigli, vi mettete ad allevare conigli, fate dei campi e ogni tanto uscite a caccia. Cioè, ma cos'è D&D o un gestionale? Esatto, un gestionale. No, poi normalmente Kresk la vendetta di strada. No, questo è Farming Simulator. Kresk lavora con i avete tutto la città. Poi no, scusate, con Vallati. Sì, esatto. Presto avrete il vino e potrete scambiare scambi. Tanto vengono delle carovane di Vistani per scambiare. No, Vistani. No. Ma occhio che Vistani assaltate rubano. Le carovane di Vistani. Esatto, come prendete, rubate il bottino, però... uccidete i Vistani e occhio che Vistani rubano le cose. Per esperienza abbiamo capito che il vino è molto importante in questa regione, per cui potete presto qui si produrrà vino e potrete arricchirvi tutti. O ubriacarvi, assaltando i mercanti che verranno a prendere il vino. È così. È così. Sareste disposti a... No. Chi lo dice? No. Pietro vi chiede, ma sarebbe possibile, ad esempio, sotto magari mentite spoglie, andare a portare dei beni preziosi? Scambiare vino con Vallati, vuoi dire? Sì. Sì. Solo noi se non avvelenate. Sì. Non potremo farlo, ma se qualcuno va là e non si fa riconoscere... vista la situazione un po' instabile. Beh, dite che Martin, come voi non riuscireste a commerciare il vino a Vallachi, secondo voi? È da un po' che non riceviamo notizie di Vallachi, ho paura che la situazione sia poco simpatica. È poco simpatica. Invece ti becchi sta secondaria. Le altre con cui commerciate la parte va, secondaria va, va, contemporanea. E qua Stani, poi c'è in pausa, pagina missioni, c'è la main quest che ormai raramente il villaggio di Barovia, ma è troppo lontano di solito. Vabbè, allora spargete in giro la voce che c'è il vino e vediamo cosa succede. Ma la sala è pericolosa. Capisco quale sia il problema. Va bene, ma no, noi lavorare queste cose va bene. Tanto ci terribile. No, va bene, è giusto. Grazie, Pardistron, sei sempre molto saggio. Dopo aver cercato Van Richten, ci recheremo a Vaktagrad per capire qual è un po' la situazione. E vi faremo sapere. Scusate, Elfi, qual è la situazione a Vaktagrad? Voi che ci abitavate a esatto, esattamente 10 minuti. Esatto, intanto Fingo non ci può sappiamo, dare. Dopo che sono stati andati via i Vestani non ne abbiamo tolto le orecchie, gli occhi, cosa? Cazzo, abitavate a 10 minuti? Ma gli abitanti di Vallachi non vogliono avere nulla a che fare con noi. Ok, voi nella vostra zona vi spingevate fino ai confini a vedere Vallachi. Che cazzo sì, Vaktagrad. Basta, conquisteremo anche Vaktagrad e creeremo l'impero. L'abbiamo già fatto. Vaktagrad 2. Nessuno di noi entrava mai in città. Come si cambiamo nome? Potrebbe succedere qualsiasi cosa dentro quelle valle. Cosa vedevano i vostri occhi da elfo? Nulla, quanto pare. Dei comignoli, del fumo che usciva, la nebbia. Vabbè, è tutto normale. Agli erticoli. Bastava dire tutto regolare. Tutto regolare. Come al solito. Bene, allora. È deciso. Partiamo alle prime luci dell'alba. Abbiamo detto. Bene, turni di guardia. Fanno gli elfi. Cazzo, abbiamo 60 persone che lavorano per noi, dobbiamo farli noi. Non è che dobbiamo far tutto noi, cioè. Ma voi dove alloggiate quest'anno? Io in abbazia. Qui nell'abbazia da solo. Qui nell'abbazia. Qui nell'abbazia rimaniamo allora. So. Gli altri non vanno, non rimangono nell'abbazia, gli altri tornano in città. Certo. Tranne i mongre. Io vado in una stalla con qui. I mongre la fanno. Ok. Perché l'abbazia è in pericolo. No, era per sapere chi c'era durante la notte. Sì, noi siamo qua. E chi altri? Perché gli altri tornano in città. Noi compagni. Ok, quindi appunto da qui di nuovo la mia domanda: turni di guardia? Turni di guardia, ma non presente nessuno. Nessuno? Ok, va bene. No, aspetta, non presente nel Cimongro? Paradigno, che è puro. Scusa, io turni di guardia. Abbiamo setacciato sta abbazia palmo a palmo. Cioè, che cazzo sì, dovremmo. Volano i nostri nemici. E camminano sui muri. Siamo comunque al chiuso. Sì. Dipende dove mi mettete, però. Sì. Io ho le reliquie di sti cazzo. Ma loro non lo sanno. Vabbè, c'è il corvo. Non c'è il corvo. Ah, no, sì, c'è tutte. Quali? Ah, l'animale. Ma esiste una chiesa. Ma lui me l'ha restituita. Bene, cesto, che ho delle reliquie che rendevano una chiesa immune dai vampiri. Tieni 3-4 mongrel. Vai, 3 mongrel. A quanto pare non era previsto che le rubassi, quindi sono buggate e funzionano solo in quella chiesa. Quindi abbiamo 3 mongrel e un corvo che fanno la guardia. Dormiamo tutti perché nella stessa stanza o ci dividiamo? C'è la stanza con tutti i letti, dormiamo là. Cioè, ci sono i letti, cioè. Io non mi faccio riposo lungo, io sto nella stanza del villaggio con 3 popolani e faccio le mie cose. E lascio il gufo con loro che mi avvisi se c'è qualcosa. Esatto, guarda che sta, è il suo sta cercando di di fare il suo piccolo culto in città. In mezzo a un alcolista. Dai, proviamo a accaparrarci sponsor. Ma... non farlo. Non farlo. Cosa? Ah, ok. Cosa pensavo? Sa questo. Ah, okay. In che zona alloggiate dell'abbazia? È nella stanza con tutti i letti. Ma lo scontro qua che va. È solo per curiosità. Non c'è anche neanche da trovare. In maniera totalmente non correlata a quello che state facendo. Qual è la vostra iniziativa? Siete qua, quindi? Che palle! No. Cos'è, un esame? Siamo qua. Nella cantina. No? Ok. E abbiamo sprangato la porta. Va bene. Va bene, vai, siamo sopra il mattatoio con la stanza con tutti e la finestra. Ma non è la nostra torre. Giusto. Esatto, però, vedi che c'era un motivo per cui ci sono dei letti. Va bene, come funziona, Perché ci sono dei letti. E che buio, è buissimo. Così buio. Creepy l'ambientazione, vezzi. Ah sì. Ma no. Puntata dark perché c'è Salla. Va a fare. Salla che ha messo in postazione oscura in modo che non si vede. Strumenti, non c'è strumento. Sì, è andata da destra. Destra. Farò il mio culto d'animazione. Saranno tutti dei warlock quando avrò finito. Ma se almeno si sanno difendere. Se gli insegni a lanciare il dark almeno le loro anime saranno di qualcun altro. Ma chi se ne frega delle loro anime, onestamente. Lui sta cercando di convertire dei popolani. Vez, dopo avremo il coro di Eldritch Blast. Allora, sì, ma il mio servizio non è. Cioè, se vi c'è anche il ghiaccio. Capito? Non già preso un altro dosso. Capito? Lui sta facendo il suo culto e sta cercando di convertire dei popolari. Dopo avremo il coro di Eldritch Blast. Il culto. Eh sì, vuole convertirsi. Ma non davanti al paladino. Devi parlare per creare il culto. Eh sì, ma infatti lui non sta con noi in abbazia, ma va. È lì che fa in città con... Sì, ha fatto un orlo, non ho capito. Esatto. Allora, cosa devono fare gli elfi? Beh, facciamo bene. Quindi, a toglierglielo subito così. Che cosa? Non creare casino. Voi vi mettete a dormire quindi nello stanzone dell'ospedale, l'ex ospedale. Mm-hmm. Nel frattempo, Marco, tu torni in città con i tuoi tre amichetti. Cosa fai? Ci mettiamo in una stanza, in una stalla. Mm-hmm. In una stalla, è più sexy. Internet a caso. Ci mettiamo in circolo e inizio alla misericordia del mio padrone. Tra l'altro hai capito come si chiamano i tre popolani? Quid, quad e quad. L'ultimo ha quattro ruote. L'ultimo non è simpatico, ma ha un suo perché. E inizio a tracciare i segni magici per un rituale di evocazione. Va bene, il rituale per che cosa? Per comunicare con il patrono. Ok, ci tracci i segni magici per terra. Prima di azionare dico che ho bisogno di un sacrificio che mostri la loro devozione verso... verso la causa. E che sacrificio vuole il signor Sfortuna? Il sacrificio mostra unicamente quanto voi siete disposti a dare, quindi non tutto dipende da me. Ok, è offerta libera. Due centesimi. Sarà il mio padrone, sarà misericordioso Azazet a decidere se l'offerta è giusta. È il pensiero che conta. Se l'offerta è giusta. Va bene, signor Sfortuna, allora vanno a prendere chiesta, qualcosa. Te lo passano, puoi controllare. Però che cos'è? Uno arriva con un'icona. Un'icona sacra scolpita nel legno e dice: questo è l'unico ricordo che ho di mio padre, era un falegname e me l'ha lasciato come unica eredità, è la cosa più preziosa per me. E l'appoggia nel cerchio, non succede niente. Arriva il secondo nascondendo un sacchetto in modo che nessuno lo veda, che dentro c'è l'ultima bottiglia. La spermuta di uva numero 5, che è la marca di vino svozzo di Kretz, che è l'ultima che è rimasta in città, la conservo gelosamente, è la mia più prezioso possedimento. Lo versa nel cerchio magico e non succede niente. Un altro arriva con un forziere di legno e lo apre e dentro c'è un porcellino spaventato. dice: questo è l'ultimo sopravvissuto della mia fattoria. Cibo. Siamo in carestia, ma offriamo il cibo agli dei. Sacrificarlo potrebbe condannare la mia famiglia a morire di fame, ma lei mi ha convinto che questa è la cosa giusta da fare. Sì? Se vuole fare col mio, però non conviene. Scozza il maialino e il suo sangue fa una pozza. E in quel momento le candele della stanza si spengono. Precipitate nel buio, nel senso che si spegne la luce, non cadete da nessun parte, e dalla pozza comincia a venire su una luce rossa che riempie la stanza, e sentite una risata venire dallo specchio di liquido nel cerchio magico. Sentite una risata e nella pozza si compone la visione di una persona vestita con degli abiti molto nobili e preziosi, una acconciatura impeccabile, lunghi capelli neri, un viso molto affascinante, e RipZDR con la R che ti dice: le do il benvenuto nella mia terra, nuovo arrivato. È un piacere fare la sua cosa. Ha evocato Strahd questo. Lei non è come mi ricordavo. Ha evocato Strahd. È capitato in una zona un po' particolare. Chi ha evocato Strahd? Signor viaggiatore. Signor ha fatto il rituale per mettersi in contatto col suo patrono, però vede Strahd. Signor? Con che piacere? I nomi non sono importanti. Bosauro. Veniamo al sodo. Sono d'accordo a quello che conta, sono le azioni in questo mondo. Ma la prego, mi dia almeno un riferimento con la quale possa rivolgermi a lei. Visto che lei ha usurpato il mio padrone, mi chiami con il suo nome. Infatti. Molto bene, signora Azazet. Mi duole avvisarla che a Barovia esiste un unico padrone e sono io. Spiace. E tutto ciò che vi è all'interno dei suoi confini è soggetto alla mia volontà. Nulla può entrare e nulla può uscire se non viene autorizzato da me medesimo. Ma questo non vuol dire che non possiamo trarre reciproco vantaggio dalla nostra attuale condizione. È in grado di mettermi in contatto con il mio patrone? Oh, io sarei in grado, sì. Potrei farla uscire e potrebbe essere libero. Mi stai convertendo proprio la mia strada alla fine. No. Potrebbe essere libero di ritornare a... Se facendo prima, ma mi dica che cosa è venuto a fare nel mio regno? È un'informazione che solo il mio padrone può darle, e a quanto pare abbiamo difficoltà a rintracciarlo. Anche se in realtà ci credo, qualsiasi tipo di collegamento da questo regno all'esterno è impedito da forze che vanno al di là dell'umana comprensione. Però diciamo che c'è ben poco di umano in questi rituali. Se vuole possiamo metterci in contatto assieme con il mio padrone e avete voi la conversazione riguardo a queste cose secondarie. Ah, quindi è lodevole la sua fedeltà. Lascia che non vuole in nessun modo andare contro la sua volontà. Bene, potrebbero essermi sempre molto utili dei servitori così. Con questa sua dedizione. La mia e la sua esistenza non sono nulla in confronto al potere di Azazet. Il potere. Lei crede di insegnare a me che cos'è il potere? Lei, giovanotto, ha ancora ben tanto da imparare. Mi piace la sua irruenza, la sua spavalderia. Sa, una volta ero così anch'io. Poi i secoli mi hanno cambiato. ho visto gente molto più imponente di lei cadere sotto il potere del mio padrone. Bene, allora se il suo padrone è così potente, perché non viene a tirarla fuori da questo luogo? Spero che sia una cosa che non debba mai accadere. Ah, ora la fa. Looking good. Brutto stronzo. Quindi vediamo di fare in modo che ciò non accada. Se però l'ha vista adesso. Se è disposto a fare una cosa per me, allora io potrei aiutarla in quello che. Ah, e fa anche lui il patto con Strad? No, solo adesso. Alla grande. Sei rimasto solo tu, il virginello della compagnia. Qualcosa. Qualcosa. Tu bisogna esorcizzarlo ancora. Anche lui. Cioè, di nuovo, ma voi fate i patti così. Cioè, tipo, io devo metterci 50 ore. Loro, tipo, fai un patto per me, per cosa? Ma tu fallo, poi sarai mio schiavo. Ah, ok, sì. No, in realtà è molto titubante, è difficile da convincere. Io ho già un padrone, deve chiedere a lui. Se vuole i miei servigi, sono in vendita. Però non so. Su Society 6 al 20%? Il mio salotto, 30% di sconto. Non sono io che ne gestisco l'utilizzo. Allora, United States, Albania. Ho capito. Va bene. Djibouti. Allora come cercherò di mettermi in contatto con il suo padrone e vedrò che, in Francia, quando lo che cosa mi riferirà. Anch'io devo riuscire a mettermi in contatto con lui, però questo è difficile finché sta qui non ha la possibilità. Ma se potesse avere un lascia passare che solo io gli posso dare, potrebbe riuscirci. Non mi serve un lascia passare. Allora prego, facci pure. E ride. No. Della risata più malvagia e sfottente che mi hai sentito. Non c'è Google? No, allora. Bene. Bene, sono convinto che ci rivedremo. Oh, questo ci può contare. Con il nostro e svanisce nelle nebbie. Fantastico. Beh, siamo rimasti soli. E io non ho fatto nessun patto con nessuno. Bene. La pozza di sangue rimane, ritorna una normale pozza di sangue. I tre popolani non capiscono, non credono a che cosa hanno visto, sono lì spaventati e pieni di dubbi. Non abbiate paura. Ci aveva detto. Facciamo ridere. Che avremmo parlato con Azazet. Perché c'era il riflesso del conte in quella pozzanghera? Additional category. La magia a volte è difficile da controllare. E a quanto pare il mio signore non ha gradito abbastanza le vostre offerte. E gradiva. Gli abbiamo dato tutto quello che avevamo, i nostri beni più preziosi. Evidentemente. Ho condannato la mia famiglia a morire di fame. Beh, no, potete mangiare quello e poi ci saranno. C'è il concilio adesso che gestirà le razioni, eccetera. Voi avrete qualcosa in più. E voi stessi. Ringraziate che vi lascio andare per ora. Deception. Vai, 13. Ti ringraziano per avervi lasciato andare, se ne vanno. Siamo su Spotify. Wow. Nel tempo, però non ce ne devo controllarlo. In più hours. Però è bella la si è il Natale. Podcast. Mi si chiama? Lezzo ha fatto 2 e 1 in un tiro di Deception. Bravo. Beh, volevi fare Deception su Strad. Mi sembra una cosa stupida. No, sei popolare. Infatti sono riuscito a farlo. Va bene. Bene, quindi ora ci dobbiamo andare alla nostra a parlare. Ah, giusto, voi state dormendo nell'abbazia. Quindi hai fatto sto patto? Non si sa. Non sono io che decido. Lui è solo una marionetta, non si sa chi sia il burattinaio. Quindi però l'ha fatto? No, deciderà il mio patrono se farlo o no. I miei servizi sono in vendita di chiunque chiede. Poi ti mandano una mail, mi sa. Non mi ricordo mai. Quanto pare. Bene, la notte passa in modo molto spiacevole per voi. Venite perseguitati da incubi e sonni agitati. Comunque io posso dire una cosa: quando ho fatto il patto con strada non è successo niente di male. Quando poi ho smesso di fare il patto con strada adesso è tutta merda. Vero. È tutta merda. Abbiamo una città, cazzo. Sì, ma guarda lui com'è bello felice. Beh, siamo rimasti solo io e te. Ci siamo, l'abbiamo fatto. Sì, no, ti stavo dicendo che passate la notte in piena, in preda agli incubi e alle visioni. No, quindi per me è una notte tranquilla. Per una notte tranquilla. Però vi svegliate la mattina per nulla riposate. Quindi non ho recuperato. Quindi non recuperate cioè, potevi nessun dire beneficio. Dovete partire subito senza fare tutta no, peggio, perché se partivate subito recuperate tempo. Quindi adesso avete perso tempo e non avete riposato. Quindi anche tipo il mio coso negativo. Vabbè, Vex. Ah, è vero, rimane. Vex. Rimane. L'indomani che spasso. Quindi anch'io so ricordo. Ma scusa, sto posto allora, cosa c'ha di male? Recupero bene un incantesimo di primo livello. Questo ospedale è. Qual è la parola in italiano? L'ospedale, ma quindi se eravamo nella torre sarebbe tutto ok. Buono, non so, puoi andare a riposare nella torre per scusa, facciamo a questo punto paladino fai un quadro. Si dice però, in italiano scusa, la parola. Maledetto. Aspetta, però scusa, no, ma quando cominciamo a vedere che è stato tipo ma quando vediamo che non riusciamo a riposare bene non possiamo spostare. No, te ne accorgi la mattina, sei troppo facile, ciccio. Hai gli incubi. Vabbè, gli incubi, ma e non ti svegli. Ma gli incubi non hai dici. Quindi non abbiamo recuperato anche gli incantesimi. Esatto. Niente. Non avete alcun beneficio dal riposo che avete fatto. Ma scusa, purifichiamo il luogo col fuoco. Andiamo. Non c'è più nulla che prendere. Ah, peccato, abbiamo perso una. Sì, no, è un po' sbruciacchiato il tetto, non è che è stato bruciato tutto, Marco. Lui vuole demolire l'abbazia. Okay. E ricostruirla. È di pietra. Mattone su mattone. È stata che. Vabbè, il paladino potrebbe fare un rituale per purificare la zona. Però scusa, allora il riposo breve, però eravamo riusciti a farlo. Nella... Non lì dentro. Vabbè, ci sta. Va bene, ci serve del sale. Beh, mi fa piacere sapere che la nostra torre sia ok. Abbiamo fuoco, no, non possiamo passare. Beh, sì, perché il riposo breve l'abbiamo fatto senza problemi. Sì, il riposo breve, vabbè, lo puoi fare anche sulla cima di un vulcano. Mi sveglio e faccio un riposo breve. Sì, quello lo puoi fare. Ma l'ho già ok. No, non mi cambia. No, sì, perché. Non so. Ci pensare, andate, non perdiamo tempo. Ci servirebbe del sale. Dai, andiamo. La rialce l'avevi ucciso, no? No, era una fonte ferita. Era una fonte ferita. Lei è riposato, sì, sta benissimo. Non mi serve altro. Vi lo zoccolo medio. Lo facciamo a volte, lo faccio apposta. Ci rimane qui a dare una mano. A volte hai questa impressione. Arci rimane qui a dare una mano. Sì, con le bestie da soma. E prima di andare via a fare la bestia da soma. Ah, giusto. Arci cura. Mi sembra giusto. Lo può fare. Ah, io no, è inutile. Tanto sono già full praticamente. Beh, per rimuoverlo cosa ci vuole? Una rimuovere maledizione per rimuoversi. Pure il palo lungo. La diminuzione dei punti ferita. Che basta il coso lungo. Hai capito? Che ironia. Dici mancanza di quello. Mancanza di quello. Che ironia. Spiace, quando spiace, spiace. Il coso lungo per togliere i suoi... Vabbè, non c'è altro non modo. Non vedo quale problema. No, scemo. Raga, ci ha spanculati, cut e ci sta. Stavolta è giusto. Stavolta è giusto. Vabbè, è un po'. Il capo lungo che ha col microfono. Magari un chili non potrebbe aiutare. Esatto. Quella sì. Sì, non lo specifica, però non vedo quale problema cioè, dovrebbe funzionare. Ci vorrebbe un chierico. Vediamo se Arce può avere rimuovimento. Vabbè, ma non l'avrà selezionato mai nella vita. No, non ce l'ha. No, sicuramente. Va bene. L'AS ce l'ha. Forse. Uscite da... Vabbè, però aspetta, se lo prepara la mattina, in realtà lui sa che c'è questo problema, lo preparerebbe. Sì. Sì, però non, non so se lo può fare. Dico bene? Non so quanti slot ci saremmo. No, non ha fatto un cazzo. Esatto. Va bene. Poi non posso vedere con me. Quindi andiamo a piedi, Vez. Quindi chi esce? Ecco, ma no, a volte ce ne sono. Quindi Vez andiamo a piedi, verso la torre. Sì, andiamo a piedi verso Irina. Sì, dovremmo andare alla torre, no, in realtà. No. Magari voi uscite in teoria a passare per la... Vedete... guardare le tracce per se che arriva il Richter. Ah, quello ci le trovate appena uscite, nel senso che sono... La direzione strada. Per la torre passa dalle tracce di Van Richter, invece che prendere la strada potremmo farla tramite la forza. Cioè, raga, sono passati due giorni, sono morti. Ci farebbe comodo. Allora, chi esce? Tutti. Vardistran. sfortuna. Sono combattuto. Se rimanere qui al castello, una notte di sole. No, in realtà dovremmo andare alla torre. Sono cazzi lì. E probabilmente va Richter e lo troviamo lì. E seguiamo le tanto la direzione è la stessa. Ci mettiamo di più passando per la foresta. Non è detto, certo. È la stessa direzione. Sì. Sì. Ah, posto. Guarda la mappa che vi ho dato. Da qualche modo, qua dietro. Allora. La torre è nella V. Ah, no, questa, sì. No, Arce non può averla di quinto livello. Che cosa? La torre nella... Rimuovi maledizioni. La torre nella V. L'equivalente di rimuovi maledizioni. La torre nella V. Le tracce partono, è vero, partono da S, no, e vanno in direzione di Z. Sì, quel paesino. Non sapete da quanto. E... Allora, Vez, questa è la torre. Questa è la città, vanno circa in questa direzione. Verso le tracce verso Z, però non sappiamo se per quanto. Ti ricordi quando tornavi nella città con gli elfi? Andiamo alla torre, raga, poi vediamo. Perché secondo me oggettivamente Van Richten è perso. Cioè, oggettivamente? Mi spiace. Tecnicamente? Mi spiace. Vabbè, è giusto che in città abbiano ancora la speranza. La rimessa ha tirato fuori la hit qualche. Sì, certo. Il limite ci diamo tutti i mannari. Vabbè, allora andiamo alla torre in fretta. Cioè, in fretta cosa vuol dire? Chiedi quanto ci mettiamo se andiamo per la strada. Dovrebbero essere 4 ore. No, niente. Beh, dai, facci fare le cavalcature almeno per un'ora. Arci. Quando partite. Cavalcaci, sì. Per un... fai le cavalcature. Ah, è vero, ci sei anche tu in tutto ciò. Sì. Ok. Cioè, se vuoi no, è no, un... come vuoi. No, anzi, è un'idea ancora migliore. Sì, a questo punto. Vogliamo. Arci viene con noi per un'ora. E lo ritorno. Con le cavalcature. Poi torna, non ha molto senso, tanto vale. Poi ci fa l'altra cavalcatura per un'ora e torna. E così arriviamo. Così è arrivato. Sì. Bravo. Un inspiration. Power player. Power player puro questo. Porca pure power player. Non ve l'aspettavo. Non ve l'aspettavate. Ma mai questa campagna è finita. Vabbè, ci sta in realtà, ha senso. L'unica cosa lui proverà è evocare dei cavalli e adesso vediamo che cazzo viene fuori. Ma questo perché catta è vero anche quello. No guidance. Beh, io tanto c'ho cose. Vabbè, se dobbiamo fare sneaky, tu hai il svantaggio. Che sneaky? Tutti devono sapere. Diciamo. Esatto, tutti devono sapere che arriva. Dai, tiro io per Arci. 2, 3, 4. Quanti cavalli? Ma perché? È quello che non sono cavalli, è casuale. 5 cavalli. Top, a posto. Anche Arci ha il suo cavallo. Casimir? Ah, Casimir, a posto. E Arci io. Ah, c'è anche Casimir con voi. Se vuole venire, sì. No, viene. L'ha detto l'altra volta. Di fuoco, zero. Basta, Casimir è l'unico che fa. Ma Casimir ha dormito noi, con noi abbiamo dormito noi. Non ha dormito finché non sapevo di livello, sì. Casimir ovviamente no. Ha dormito non con noi, Casimir. È mica stronzo, voglio dire. Ma noi avevamo un punto ferita e si è scappato via. Meglio che abbia dormito un'altra volta. Quindi 5 più Arci. Si vede Casimir che si sta per venire a dormire con noi. 5 e 2 Arci. Ma master. Noi siamo 4. Potrei avvisare. Casimir 5 e 2 ad Arci. Ma glielo potrei dire in fondo? No. Il silenzio dei PNC. Rifacciamo metà strada. Fatemi la strada nella metà del tempo. A 2 anni. Al cizzo. Mi serve che... uno o due di voi mi tirate due di 20. Per cosa non si sa. Uno. Grande! Sono i Ma di solito è per gli altri. E poi uno me lo tira per Arci. Un dado. Da 20. 18. Oh, okay. Quando serve tirare basso, Vez è il migliore. È sicuro che è così. Brutta storia. 15.000 mannari. Beh, Vez, che magari a sto giro sali. La civiltà dei bannari. Potresti darci un livello. Una a me basta. Potresti darci un livello per basta. Per il discorso di Vez. Ok. Una di primo. Beh, concilio, è stato figo. Non mi dà più Inspiration. Ce l'hai già? Totalmente. Non ce l'ha l'Inspiration. Vabbè, non me l'ha data. No, prima ha detto no perché tanto ce l'ha. Sì. No, io te l'ho data quando hai fatto il discorso. Ah, allora me l'ha messo. Te l'ho detto. Datemi una grande, sempre. Allora sono Pensavo che ormai fossi abituato ai miei usala scorsi, bene. No, ti emoziona. Usala bene per aiutare il mio scemo come fanno gli altri. Io la uso. La usate tutti per aiutare me e la sbrecate malamente. Che cazzo ridi? Che cazzo ridi? Cioè, Giuda. Che cazzo ridi? Non ho capito. Adesso ce l'ho anche io, quindi potrei usarla per me. Io vorrei dare la mia inspiration a Sheo. Va bene. La mia la uso adesso per battere a braccio di ferro il primo che passa. Vai, rega, senza paura. Sicuro che non vuoi portarti un popolano per picchiarlo ogni tanto? E tu tra popolano non te li porti? No, perché ho fallito comunicare con i quindi cosa ti odiano tipo adesso? No, ma non voglio che mi pensino debole. O che pensino che Azaz è debole. Cioè, il tuo superiore si chiama Azaz. Azaz. È un balbuziente sbagliato pronunciare. Sì, infatti adesso prendiamo, adesso il suo superiore si chiama Strad, mettiamolo così in chiaro. Strad lo conosciamo, benvenuto collega. Non Strad, ho fatto il patto Strad, in realtà lo seguiamo tutti a parte mezza scena. Arrivate alla infatti ne ero i piedi su Instagram, spero. Ho anche un suo pupazzetto. Io ancora no. Torre è un pupazzetto di Strad, è un bel guaio, esatto. In realtà Arci però arriva con noi, quindi vediamo se torna indietro, se ci aiuta. No, torna indietro. Conoscendolo. Io non ho fatto il patto. Mi ha detto che puoi evocare il mio patrono e decide lui. Forse è peggio. Io sono il tuo patrono. In pratica è quello che gli ha detto, fa in questa terra l'unico patrone di chiunque sono io. E lui ha detto ok, va bene. Ah, allora va bene. Alla grande. Hai dei aggiornamenti da stellare, sai? Rosso. Vuoi riavviare? No. Cioè, già dal 2012. No, non è vero. Gli ultimi giorni non ho avuto molto tempo. Quindi se ci cerco su Spotify ci trovo. No. Tra qualche few hours. D'altronde, se cerchi il mio salotto, lo trovi su. Lo trovi, il salottino, ma sì. Arrivate alla torre. E lo puoi mettere anche nei preferiti più. Cioè, puoi fare quello che vuoi, puoi anche chiedermi il numero e venire a cena con me. Chi è? Se vado nella mia libreria podcast, non c'è la foto da fare. Following e salotto. Bello. Non c'è la foto. Tra l'altro, Sheo, se fossi sapessi cosa l'episodio, come avevate visto l'ultima volta. Però sei stato citato in qualche episodio più vecchio, Sheo. Tipo l'ultimo? No, non l'ultimo, veramente? Però sì, davvero. Devi guardarli tutti. No, no, davvero, non mi ricordo quale, ma ci sei. Devi sentirli tutti, mi dispiace. Dici. Come avete visto l'ultima volta, c'è una torre, la scala di legno, che l'impalcatura di fianco alla torre era crollata. Io non l'avevo visto. Siamo dalla tavola. L'aveva visto. E non abbiamo. Chi c'era andato? Non siamo stati assaltati. Ce l'avevano detto, però. Non siamo stati assaltati? No. Wow. Posso usare? No, perché ho tirato uno. Magic. Il rituale. Allora. Mi spiace. Ho tirato 18. Perché ho tirato uno. Fumble. Non mi ricordo chi, forse lui insieme a Marvel, sì. Cioè, qualcuno c'era andato e ce l'hanno detto. Tre arci morirà. Se vi ricordate la torre in mezzo al lago, sì. Sì. E vi si accede attraverso questa... quel camminamento, sì, questa passerella. Esatto. Ma non vediamo nessuno, quindi in fuori in non c'è nessuno. Beh, Perception qui ci sta, però. Sì, direi tutti. Aspettate, non faccio male. Guarda che città c'è, Detect Magic. 14, 20, 30, 60. 25. Io non tiro. Io sto facendo il rituale per fare Detect Magic. Mm-hmm. Ha fatto 25 col dado. 25, 30. Yeah. Ha fatto 25. Comodo, 13. Ok, quindi il più percettivo di 13? Voi è fatto? 13. 20. 13 Giacomo. 20. 13. Cosa vedo nei miei occhi? 60 piedi. 60 piedi. E rifida. Vedo 60 piedi. 14. 14. Allora. Prendo 20. Stai uno, guarda. Ti ero già ucciso. Ma. E faccio un più percezione, devo fare o... Secondo me l'abbiamo fatto tutti. Con guidance faccio 16-18. Beh, facciamo super sempre, se non dobbiamo farlo tutti. Lo fa anche Arci? 4. Così. Non è con c'è Arci. Ah, è tornato già indietro allora. Sì, sì. dalla fine del viaggio. Poi a metà vi lasciava. Ok. Però se a metà non evocava abbastanza creature, poi ne sono in 6. Andate a piedi. Ne evocava per questa volta catta in modo da... Vabbè, ma gli altri 5 sono montoni e cose. Tu cavalchi il tuo cazzo in montone e rompi. Non ho un montone. Sei io. Lui è il montone. No, che è evocato. Ah, se evoco un montone è mio, certo. Lui è un montone. Esatto. Ah, no, aspetta, 30 piedi. Sto guardando un altro. 3 cavalli. 30. Su, 3 cavalli? Per 3 persone. Sì, che casi mio. 30 piedi. Anche lui prende un montone. Un serpente. Però 3 piedi, cavalli di terra lo bloccano. Quindi c'è qualcosa se folta. No, non tirare fuori dei 12. Basta. Ok. No, sì, ci sta. Aspetta, per lo spoiler e sblocco. Cosa ti hai mangiato? Sai, dei tortelloni. Ah, hai fatto fare un tristellino. C'erano dei passatelli asciutti con prosciutto e prosciutto. No, bubu, passatelli asciutti. Come si chiamano? Paglioline. Non è strozzapreti. No, come si chiamavano? Stregattine. Tipo tagliolini. Tagliolini. Tipo tagliolini. Con prosciutto e carciofi. No, è il contrario. No, è prosciutto e porcini. Porcini. Buoni. E poi dei balanzoni dei tortellini ripieni di spuma di mortadella. Molto buono. E poi il dolce. Noi abbiamo con aceto balsamico e pancetta. Con aceto balsamico e ragione. No, cos'era? Pancetta era. No. Sì. No. Cos'era? Quella roba croccante, prosciutto. No, non c'era niente. No, fuori c'era. Aceto fuori balsamico e i balanzoni. Il balanzone, c'era fuori aceto balsamico e il formaggio. Sì, ah, tu, è vero, però c'era anche qualche... Madonna, rega, ma che cazzo? Cioè, non avete mangiato niente? Ma ne vuoi... Ma era degli altri... Era degli altri? Non lo so, secondo no, me faceva parte sopra della composizione. Sì, c'era sopra. Ancora dei pezzi della tua torta di riso, secondo me è mangiabile. Ok, importa. Cotto nel latte il riso, Ho mangiato qualche... Sono ancora vivo. Però, meno 16 punti. Però è cotto nel latte il riso, quindi... Se vuoi provare, secondo me sì, è il frigo. Perché ti dico solo che prima era blu. No, vuole, vai no. Marco. Se sa di acido, no. Se ne è cotto nel latte. Secondo me è buono. Ma quanti anni ha? Una settimana? No, sì, vabbè, allora è easy. Può essere anche meglio di come era prima. Secondo me. No, potenzialmente comunque il latte una settimana dura. È in frigo sì. È in frigo. Ma chiaramente poi la frigo no. Però. Si picchiano. No, no. Si densa. Quindi è più, dovrebbe essere più buono. Va bene. Ma io l'ho mangiato qualche giorno fa, era buono. Come consistenza dovrebbe essere più buona, in teoria. Il frigo si... Sì. Tu che hai mangiato anche una settimana fa, dici? No, non è mangiato. Può essere te. Ecco, tipico. E dov'è Newton? Cos'è? Il tritone. No, i biscotti Newton Fields. Volete un tè? No, grazie. Niente. Perché? No, ho fatto una battuta orrenda e l'ha capita adesso. Solo catta. No, l'ho capito. Purtroppo si è suicidato. Quindi ora saliamo di livello. A proposito, andiamo a sbrigarci. Ma avevo letto. Non avevo letto il nome dei biscotti. No, ma questo viene una volta all'anno e sale di livello. Oh, senti, ne facciamo un'altra. Dici che l'ha detto per illuderci. Lui ha detto a proposito, muoviamoci. Allora, te Barbaro, senti. È un buon mix. Fa piacere. Percepisci la frore di un animale. Se me ne vado io. Che viene da dietro la torre. Io percepisco la frore. La puzza, l'odore. La frore. Ti annusi l'ascella, capisci che puzza. L'afro, percepisci l'afro. Che infatti puzza. Non è che i negri puzzano. Cazzo vuol dire? Bove afro. E puzza. Sì, però non è africano. Però riconosco che bello questo. Sfortuna, lanci Detect Magic. E, 30 piedi. Per raggiungere la torre dove bisogna percorrere un camminamento di un centinaio di piedi, immagino. Per arrivare in gittata di Detect Magic. Ah, ma quindi Detect Magic ha detto, invece Perception non ci ha detto niente. Voi non percepite nulla di strano. Lui sente l'odore di una bestia venire da dietro la torre. Mi nascondo. Ah no, non no. Vista. Invisibile. Di un animale, comunque selvaggio, di foresta. Selvaggina, ecco. Siamo nella foresta. Siamo in una foresta. Sì, siete voi, infatti, che non vi siete lavati. Invisibile. Posso provare a guardare? Ray si è sparito. No, non lo faccio. Lara! Chi è Ray? Vedo per terra delle tracce. E tu cosa ci fai? E lui c'è anche Ray. E c'è anche Laz. Se vuoi faccio un survival. Sì, tu no. Per terra ci sono i solchi del carro che c'era quando siete arrivati. Sì. Che è poi quello di Varricchio. Era quello di Varricchio. Aspetta. Varricchio era quello. Però c'era Varricchio. Quando siamo entrati in città, hanno lasciato il carro di Varricchio fuori. Sì. Da qualche parte. Potevamo passare a vedere se c'era ancora. Tardi. Beh, l'avremmo visto in queste volte giorni. Non è passato, non era dove segue passati voi. Avevamo una scuola. No, però l'altro giorno avevamo fatto tutto il giro, se non sbaglio. Ah, è vero, l'altro giorno quando abbiamo ucciso gli zombie eravamo lì nella zona. No, ma non è lì dove l'avete nascosto, altrimenti i nemici l'avrebbero già trovato. Sì, l'avevamo nascosto, quindi se non l'abbiamo detto effettivamente. Ok. Non detto adesso. Non me lo ricordavo. Ah, così, ha tirato fuori il manuale dei mostri. Puoi cadere sulla pagina del drago blu antico? Solo per l'unico personale. Perché è un amante dei draghi blu. È di fianco a quella della marmotta blu antica. Cosa guardi, Giulio? Che vanno in ordine. Cos'è? Di blu un drago. Antico. No, no, non sarà quello blu antico, ma sarà un altro drago. Quello adulto. Lui si avvicina per detectare la magia della torre. Il drago, il manuale è una parte del drago. Mi avvicino per la magia della torre, cosa fate? Ti avvicini? Fa un drago adesso. Quanto io pare. No. Ok, sì, Race no. Gli altri cosa fanno? Ah, tu ci hai segnalato che c'è puzza dalla torre. Ho sentito che c'è odore dietro la torre di un animale di selvaggina, però. Selvaggina? Esce il drago. È proprio la descrizione che avrei fatto io. Qui c'è, non c'è il carro di Esmeralda, giusto? È venuto via quando siete, cioè, l'avete no, preso. È un drago che spara fulmini selvaggini. Però mi muovo con cautela e preparo il discorso. Il discorso è che c'è un unico passaggio. Immagino. Ti ricordo che è concentration. Detect Magic. Misty Step non è concentration. No, è bonus. No. Se prepara un incantesimo, sì, quindi, però essendo bonus. Okay. Il discorso è che c'è una passerella. Preparare un incantesimo, quindi tenerlo richiede concentrazione. Quindi, perché parola dobbiamo dire in che ordine? Quindi, nel senso, lo perderebbe, questo è il concetto. Perderebbe Detect Magic. Certo. Me lo tengo. Ascolta, non c'è un modo per avvicinarsi inosservati, tra virgolette. C'è una passerella che è completamente spoglia. Se volete, vado a vedere lago, cosa, cioè, c'è che passa attraverso il lago. Come? O comunque avendovi silenziosamente. Vabbè, completamente una passerella, ti vedo. Okay. Andiamo. Avanziamo. Ho comunque fatto 18. C'è una passerella dentro l'acqua. Avanziamo circospetti. Quindi sono confidente. Qui c'è il lago, fiducioso. Qui c'è la torre, la riva è qua. A meno che Race non voglia andare lì da invisibile e guardare che cazzo c'è, andiamo così. Diventa invisibile. Vado a vedere cosa c'è. Io mi avvicino con andate di pari passo o lo superi? Tu sei. Io mi avvicino e basta. No, lo supero. No, cosa ti avvicini? Va a vederlo invisibile. Rimani dietro. Ormai ho detto che mi avvicino. Sì, ma ormai ti prendo per un coso e dici aspetta. Non c'è niente, lasciami stare. Aspetta. Non c'è sentiamo niente. Sentiamo che cazzo c'è. La smettiera di 30. 19. Dammi il dadone. Ma fa schifo sto dado. È uso un dado normale. Questo, ti è. Oh, questo? Ottimo. Daga. Infinito. Daga. Infinito. E dov'è muoversi senza niente? Stealth. Questo è radio, si chiama. È furtività. Furtività, bravo. 19. 19 furtività. Fammi un perception. No, anzi, voglio la tua perception passiva. Direi. Poco. Oh, wow. Sei morto. 11. No. Il drago non ha perception cieca, dico. No, aspetta, percezione 11. Sì, ha blind vision. Questo blind sight. Cos'è? Un po' di sperma che ti è. Sì, esattamente. Ma no, è il riflesso. Sì. No. Sì, usa questi, sì. Ok. Usa. Ritiro. Wow, 17, 27. non 17 più 17 più 10 23, arrivi 24. Dalla torre circospetto. Tu c'eri già stato qui, no? Non credo. No, eravamo a servire strada. Ok, se ti ricordi di no, fronte qui sono, alla torre sono Betz di noi, ero a far stato. Giuramento sì sono Betz. Okay. Per la di fronte mia... alla torre c'è un portone e sul portone c'è questo dentro. Simbolo qui dalla torre è vero. Che vezzo mi sa fare. Ma non vedo niente dell'odore di selvaggina. Non che vedi selvaggina intorno alla torre. Però posso guardare attivamente. Che vedi un drago? Hai fatto perception. Sì, ma era passivo, hai detto. Ma prima hai tirato un'altra perception. Sì, ma ero fuori. Sì, ma eri attivo. E non dentro. Sì. Perché a me serve il tuo perception passivo. Poi tu puoi fare quello. Io posso guardarmi intorno, cercare, vedere se. Finalmente mi avvicino alla porta. No, niente. È tutto tranquillo, ti dà l'ok per andare. Non mi vedi perché sono invisibile. Dobbiamo aspettare che torni. Allora torni indietro lentamente. Uso da loro. Basta fare il richiamo della civetta. Basta che dici il cazzo. Puoi dire il cazzo. Torno dietro da loro lentamente e dico. Contrapposto. Rega, non ho visto niente io. Tranne un simbolo strano sulla porta. Sì, quello è normale. Vabbè, andiamo. Okay. Andiamo velocemente. Io resto invisibile. Piedi. Tanto ormai l'ho usato. Ottimizziamo. Andiamo. Allora, intanto il suo detect magic che cosa percepisce? Se c'è una magia, il tipo di magia. C'è una magia. Allora, c'è una magia di protezione sulla torre. Di quella del tipo del che vado davanti io, se mi prendo la prima bancata io posso Conjuration vivere. Dovrebbe essere, no? La scuola di fulmine, palla di fuoco, il compagno bello. Wow. È una magia di evocazione sulla porta. Io. Dentro la torre non percepisci perché c'è solo il muro. Vabbè, si è andato alla porta, no? Ok, quindi questo è quello che lui percepisce con Detect Magic a 30 piedi. Quindi percepisce niente? Quando... non se lo dico. Niente, puoi aprire la porta. No, allora no, ci no, sono no, già stati. No, la porta no, sono lui. Sei uno scassinatore. Esatto, praticamente tu vai di sceo, cominci a fare l'opposto. Quindi Marco... quindi l'unica magia che percepisco intorno è quella della porta. Quella della porta... è quella della torre. No, ma questo è un problema suo. Come qua in questi giorni abbiamo provato a fare un personaggio nell'ex arcana, per esempio. Lui ha letto il manuale, ma non ha capito un cazzo. Cioè, non so, ha letto tipo una parola ogni 5. Perché ecco, adesso era lungo. Adesso moltiplica per 5 perché è quello che succede a tutti. No, guardo le informazioni. Ve lo spiego io direttamente. Evitiamo una cosa. Giuro che si deve spiegare le regole, io non voglio leggere. Bravo. Non so leggere. Sono d'accordo. Nel momento in cui lui arriva a 30 piedi dalla porta, da un buco nel terreno esce un lupo che salta addosso alla serratura. Tirate iniziativa. Vabbè, ma sono addosso alla serratura. Terreno nel lago. No, dalla torre. Ah, ok. Ma scusate, ti interessa sapere chi era davanti? Perché ho esplicitamente detto che ero io davanti. Facciamo anche tirare l'iniziativa. Tanto no, perché se una passerella e lui attacca per primo. No, la passata 5 è passata. La passata. Allora, 24. No, 23. 17. Si è fatto 30. Beh, praticamente. Cioè, guarda io che tiro con vantaggio 1 e 2. Fumble. Carro. Io tiro con vantaggio 4. E tiro anche l'alcero. Vado prima, di Garrosh. È vero, perché rompevi le palle sulle cavalcature? Che ce l'hai? Sei l'unico che ce l'ha. Io sì, loro no, però. Questo fa solo due. Io sono sull'alcero. Ah, quindi la usi come cavalcatura. Non è detto. Intanto la tiro, va bene? Sì, sì. Ma guarda, ti ho risolto il problemino. Oh, 17. Perché ho fatto 17. Oddio. E l'alce a distanza 0. Siamo uguali. Ma piccolini. Piccolini. Mi siete entrambi. Ma cos'è? Che scazzo, ma cos'è? Che scartone. Io ho fatto uno. Che non che sia il combattimento più lungo. Ho fatto 5. Così così. Ah, il latte diventerà. No, io ho chiesto. Il latte si trasforma in animali. Di cosa faccio con Detect Magic? Lo sento il latte. 23. No, io ho detto assaggiatela perché non lo so quanto dura. A casa mia non è mai durata così tanti giorni perché la finivamo prima. Io sono più pieno di dolce. E poi tu sei da solo, è normale. Sei pieno di dolce. Ok. Prendi qualcosa. No, si mangia. Sono miei. Cioè, è normale. Mi pare uguale. Allora, quello buono. No, adesso vi do qualcosa. Vediamo. No, beh, basta. Cioè, siamo garacci come la merda. Ah, lasciaci in entrare. No, io farei magari tra un po' una cretina. Sì, che adesso? Una birra. Una droga. 5-10. Tu che ora hai la tua cena? 8:30 Voglio andare a casa. Abbiamo cominciato a giocare sul serio, quindi basta. Voglio andare a casa. Ah, è che lui non voleva giocare. Padre, no, detto forse saliamo di livello. Ha detto voglio fare qualsiasi cosa a parte giocare a Dungeons and Dragons. È vero, c'era anche Giulio quando dice. L'hai scritto. Oltre a dire. No, non l'ho scritto un po' tra le righe, cioè non era. Ma si capiva benissimo. Invece l'altra sera poi ho detto non voglio giocare. Ma nessuno ti obbligo. Lupo prende contro la porta. I simboli magici che sono affissi sullo stipite cominciano a brillare di rosso e a lampeggiare. Vedete uscire da. Cosa succedeva se sbagliava? Boh. Questo che lui va, cioè, da tre pronto e c'è un lupo sulla porta e che fa assistenza lupi. Sì, ce n'è, sì, no ma mi lasci il ma tra le righe era io ci vedere. Sono se volete fare qualcosa a pranzo, pomeriggio, cena, soprattutto se non giochiamo a D&D. Soprattutto se invece l'altra sera mi ha detto io non voglio giocare a D&D le vostre assolutamente di bello deve mettere su. Già. Apprezzo comunque il tuo sforzo per giocare all'Extra Card. Invece c'è, quindi sta zitto. Ah, no. Dalla porta chiusa c'è una mano artigliata che trascina avanti il resto del corpo, seguita dalla seconda mano. Dalla porta. Fammi capire, c'era sta trappola qua e la gag era che Katta c'era. Vabbè. Ah, perché il lupo ha fallito la combinazione. Quindi il lupo ci evoca il drago blu e che sì. Noi dobbiamo sconfiggere. Nel frattempo, dalle vostre spalle la foresta sentite una serie di ululati. Ci sta. Abbiamo? No, sono invisibili. Nella foresta che c'è, che sta. Parlei con il drago blu e lo rindirizziamo contro il lupo. Faccio invisibilità. Non si può alzare le mani, tipo. Mai visto un errore così. Vabbè, io per l'iniziativa non è amico nostro. Io per l'iniziativa che ho fatto devo ancora capire cosa è successo. Perché ora se sconfiggiamo il drago la torre è prendibile. Vabbè. No, non lo so. Questa è semplicemente la difesa della torre. Però sì. Il lupo ha capito che l'ha attivata qua. Però non so se si ricrea. Sai? Questo non lo so. In ogni caso. Tu dici una volta morto il drago, non facciamo un cazzo. È un po' un drammino. No. Ma perché andiamo contro i cosi, andiamo contro i lupi, torniamo indietro. Sarebbe una cosa divertente. È che noi liberiamo la torre che non c'è più i rive. Sarebbe una game. Come si giocava? Aspetta. Vero pure. Passo. Per una volta. Hai detto che c'è un lago, no? Vuoto. Io mi allontano da loro. Uh-huh. Ma ti avvicini al drago? E c'è spa, dov'è una mappa di sto posto? Ah, c'è una passerella dietro di noi. Volevo fare. Sì, ma c'è uno spiazzo. Siamo nella spiazza. C'è una passerella fino alla riva. Diciamo che io mi allontano un pelino da loro. Cioè, se il drago spara, io sono un'altra parte. Tanto voi sareste qua in realtà. Però non volevo vedere se c'era una cosa che faceva vedere la cosa più in grande, però dovrete immaginarvi che appunto questo sia su un isolotto e lì dritto poi diventi una passerella che porta alla terraferma. Quindi noi siamo tipo qui davanti al qui di fianco. Siete tipo qua, 30 piedi da questo punto. Sono 5 questi, il quadretto. Ma quindi Ray tu sei andato lì e non hai inserito un cazzo. Ma perché non c'era un cazzo? Perché era una era allora come molti lupi. Mi avvicino di fianco alla porta. Che ho sentito io. Mi avvicino di fianco alla porta, ma non dalla parte del sentiero, più dalla parte di diagonale. Tipo se il drago esce di qua, no? Sì. Io mi sparo un po' di qua, tipo qui. Ma tipo non soffoca un lupo sottoterra. Cioè, abbi pazienza, se io seppellisco il mio cane muore. No, era una buca. No, l'ho seppellito. Non era seppellito, ma, era una tana. Sì, sì. Allora, tipo, ha voluto attaccare tipo Aldo sulla spiaggia che fa un tratto. Si muove all'alto. Niente. Ma io non devo farmi mica niente. Vabbè, fai qualcosa, ti sposti e. Niente, che cazzo faccio? Scusa. Chiedere dei bevitori di acqua. Ok, tocca al drago. Partito. Bevitori di acqua. Cosa avete seccato? Tocca a me? Allora, tiratemi un percentuale. Vai, Vez. Sono invisibile. Sei tu che devi sconfiggere il drago. Cioè, a testa o ognuno complessivo? Ognuno. 8. 95. 7. Se fai 1 muori. 65. Ok. Mira a me come la cosa più curta. Basso è bellissimo. Perché Mezzo non voleva essere. Ma no, vediamo adesso. Quello che non aveva fatto il punto era più basso. Aspetta. Vediamo. Non però abbiamo peccato per. Ho ritirato per fare la gag. Ho fatto 7. Mi dispiace, ho fatto di più. Fatemi un tiro salvezza sulla destrezza. Mentre il drago riempie i suoi polmoni di scarica elettrica. Io no. No, sì, scusa, Artanas e Vardis. Abbiamo più 3 però. Sì. Necessario. Non abbiamo neanche il più 11, giusto? Non ho fatto il discorso. No, che e anche l'altro. Ce l'hanno qui qua e qua. E anche la. No, l'altro non l'ha fatto. La percentuale. Ma è sotto di te. L'altro muore. Se dipende se fallisce o meno il 19. 19. Io ho fatto 14. Anche il più tutto per 3 l'alce. E l'alce fa 16, credo. Avete superato. Eh sì, però superato vuol dire che prendiamo 20 danni, quindi metà dei danni. Che saranno. Quindi l'alce muore. Sento pochi danni. Ah, ma li tira, ma è piccolo il drago. Sì, con 3 di 10. Vabbè, allora. L'alce salvita. Hai detto 3 di 10. Sarebbe 21 danni. No, ha avuto riposo lungo. 21 diviso 2. 10. L'alce ha avuto riposo lungo, scusa. Ce l'ha fatta. È sopravvissuta di 3. Allora, beh, che cazzo. Sì, no, però. Tutto grasso che cola. Sì, no, infatti. Sì, può fare un turno. Puoi farla caricare. Sì, infatti facciamo un turno di alce. Il lupo è morto almeno. Il lupo è lì di fianco. Ma porca troia! Ma scusa, non l'aveva trascinato con le zampe? No, con le zampe si ha trascinato il suo che corpo. Che persona che drago inutile. Mi sa che cioè, io speravo che il lupo esplodesse almeno. Se glielo vuoi, Lupino deve tirare. Che cosa? Non è di fronte. Anche lui. Non è di fronte al drago il lupo. Non ha tirato. Si è spostato. Cioè, era lì, tipo, davanti. No, ha toccato e si è arrivato dalle palle. Poi si è arrivato dalle palle. Mica scemo il lupo. Differenza di chi non ha potuto avere un turno. Esatto, bravo. Però il drago è scemo perché cioè non possiamo essere stati noi a aver violato la torre visto che siamo a 30 piedi. Puoi parlarci, ho detto turno per parlare. Esatto. Perché il primo che ha visto, tocca a te. Non ho il carisma abbastanza alto. Qualcuno con alto carisma avrebbe potuto. Sì, un drago, cazzo. Nel suo turno. Non so, non ti sembra particolarmente. Ci vogliamo parlare davvero? Ragionevole. Ma è un drago trappola, non è un drago vero. Drago blu malvagio. Sì, e poi è una trappola. Ma siamo tutti malvagi. Appunto, quindi, c'è drago trappola è una cosa molto brutta. Siamo tutti malvagi. Drago trappola suona malissimo. È un drago trappola, nel senso che è lì perché fa. Non è un vero drago, esatto. È una trappola. Non è un vero drago. Ma un drago evocato. Vabbè, un drago l'alce è carico. Ah, se fosse evocato sarebbe non morto, quindi. Sì, quindi andrebbe imprigionato, non è una trappola. È non morto? No. Può essere, possiamo parlarci. Tocca a te. Capito, Vez? Non è evocato lì davvero perché sennò sarebbe non morto. Vabbè, adesso quindi, se vuoi provare a parlarci, puoi avere un cucciolo 26. Di drago blu. Ma colpisce. Mi sembra anche l'alleanza no? ai draghi. Iniziamo già bene, vedi? Ci no. Ne uno. Non so se avevi mai combattuto contro un drago prima. Però... Provo con lo spadone, poi vediamo. Se lo colpisci, noti che non c'è differenza. Oh. 26 a colpire. Faccio un drago livello. Uso uno smite. Potevamo parlarci. No, dobbiamo ucciderlo a exp livelli, basta. Anche per le dice di secondo, quindi dovrebbero essere 3 di 8. Per il potere. Aspetta. Dopo Vardis si prepara. Aspetta, devo fare anche il secondo attacco. Sì, sì, intanto abuso sfortuna. Allora, ed è attaccato alla porta. Si ritirano. È uscito dalla porta. Quindi adesso è mobile. Quindi? È mobile. Sì. Può spostarsi dove vuole. 5, 13, 16, 20, 24 danni. Boom. Secondo attacco. No, 13. Dietro. Niente, nada. Disastro. Disaster. 13 non prende, immagino. Pietro. No, non prende. Si prepara a avere e c'ha sfortuna. Io provo a fare. Ok, alzo 5 piedi di cubi di terra davanti a me e mi metto dietro. Sta cavolo della terra. E dico: oh, potente drago! Non ci uccidere, siamo qui per l'ha appena smaitato. L'hai smaitato? Sì, mi ha fatto okay, male poco, mi ha fatto tipo 30 danni. Sì, okay. Cioè, non è questo il momento in cui devi parlare. Prima dovevi fare prima, adesso non l'hai fatto, quindi okay. Fai Eldritch Blast. Faccio Phantasmal Force. Mm-hmm. Tiro salvezza su? Intelligenza. CD? Potrei fare qualcosa su tu, destrezza. Cazzo di drago. 16. Grazie, non sei sulla super. Wisdom? Intelligenza lo passa. Sì. Come bonus action lo maledico e gli do... Ex, no. Sì, ex. Ex, sale di livello adesso. Adesso no, veramente un dragone più antico. E questo era sfortuna. E che mi si è sempre chiesto se vuoi sentire. Gli faccio ex e gli do il malus a intelligenza. Come tiro salvezza. Uh-huh. Credi adesso a svantaggio. Okay. Ma nessuno di noi ha incantesimi che. Io gli faccio Phantasma Forza e gli battiamo due. Sì, che è l'ultimo che hai. No, ho 4 maglie di secondo livello. Perché hai multiclassato? Sì. Ho 2 da da bardo e 2 da. Però avresti potuto avere palla di fuoco. Sì. Se non avessi multiclassato, avrei potuto lanciare una palla di fuoco su Vez. Beh, Vez era in mezzo. I miei personaggi hanno sempre fatto. Sì, questo è vero. E siamo sempre sopravvissuti tutti, quindi. Più o meno. E un paio di volte. Vabbè. Questo è un altro discorso. Lascia muore a prescindere, cioè non è che. Casimir. Dai. Casimir si sposta di lato. Sono dentro una palla. Cos'è quella palla? Perché c'è la luna? Perché c'è la luna? Perché è una palla in mezzo? No, che faccia di merda. Quello è una palla in mezzo. Quella è la palla. No, è l'energia palla, sfera che sta creando Giulio. Dove aspetta, rifallo. È per poter usare. Diamo la nostra energia. Tutti in casino. Metticela disegnaci una palla. Ok, non si capisce. Casimir lancia Magic Missile sul drago. Ah, minchia, tanto Casimir. Se lancia palla di fuoco colpisce anche. Vabbè, abbiamo già detto che questa non è una. Puoi spiegare a Casimir che bello. Casimir, ti spiego come si gioca un mago. Allora. Ok, questo era Casimir e si sposta dal lato opposto di quello in cui è andato. Nice. 9 Athanas. Attacco, bravo. Andrei. Magari. Purtroppo non ce l'ho più con me. Faccio una foto bella. Ho fatto la palla. Bei tiri, grandissimi. Forse l'ho. È un 15. Come faccio? Con l'autoscatto, sì. Io ho tirato, ho fatto 1, 2, 8. Fai un selfie con quella camera. Sì, guarda, cioè, uso Action Surge perché tanto va usata. Non vuoi aspettare che gli faccia qualcosa? Beh, tanto non mi cambia usare l'Action Surge. Beh, se hai vantaggio magari. Tanto ce l'ho su un attacco, io faccio 3 attacchi a turno. Se hai vantaggio su tutti gli attacchi magari. L'altezza no. Perché qualcuno usa poco fatto o qualcos'altro. Sì, devo aspettare 6 turni, saremmo già tutti fuori 3 turni. No, solo 2. No, così va bene. Vabbè, teniamoci sta. Ok, Garrosh. Oh, tocca a me finalmente, me l'ho dimenticato ormai. E carico. Vado io e carico. 10 secondi. Pencil. In effetti era potuto dare svantaggio in destra. Ma devi mettere, tu dove l'hai messo? Peccato. Qua. Sorridete. 10 secondi, eh. Hai appoggiato il telefono, ecco cosa sta. Adesso non scatta, che ridere. Aspettate. Scusate, è una cassa natura alta. A quanto almeno 15. Okay, cioè almeno 16. Siamo a fuoco caldo. Tutti tranne caldo. Ti direi che avrà tra 17 e 19. Faccio attacco incauto, ricordi. Io ho vantaggio, lui avrà vantaggio al primo. Che ho fatto bene. 25. Colpisce. Arma magica. Non cambia. Ok. 8. 12 danni. È morto? No. Sì, è morto. È carino, riuscivo a chiederlo. Vai, provato. Secondo attacco è quello extra dovuto al caricamento, cioè avevo lo spazio. Sì, ho dato per contato. 20. Capisce? Ecco così alto. 17. E poi il mio. Ah, peccato. Ah, 17. Prendo. Ah, per colpire? No, manca. Pensavo fosse i danni. Dai. Questo era Garrosh. E poi c'è il lupo che scappa via. Con 17 è mancato. Mm-hmm. Te l'ho detto. Il PF temporaneo era tra 17 e 19. Non so se li hai tenuti conto. Li hai tenuto conto. Perché ce li hai ancora? No, perché mi hanno riposato. Ah, no, abbiamo fatto riposo breve. È vero, non abbiamo fatto riposo breve. Quindi se non li hai tolti, togli. Sì, li ho già tolti. Ecco. Ok. Messo la palla. Posso farlo. Ok, la lupo scappa e sta di nuovo al drago. No, a me no. Tu sei stato il prima del drago. Oh, comunque mi salta sempre che io giochi, capito. Che non giochi. Beh, non mi salta sempre. Tu quando non giochi. Esatto. Chi c'è in corpo a corpo col drago? Io. Io, Vez. Ci sono anch'io ora. In corpo a corpo. Lo attacco. Col mio stocco. Ben visibile. Quindi anche e anche lui. Tieni conto che è nuovo. Blind sight. Lui ti vede. Tira di da. Tieni conto che è nuovo lo stesso. Ce l'ho. L'ha usato. L'ha usato. 21. Io adesso un arco potrei andare indietro. Colpire? No. No. Cattivo Giulio. 22. Colpite. Ma che ti fai? Sì. Ho un più 7. Allora. Io più 9 sono mancato. Vabbè, ma tu sei scemo. 4. Devo tirare separati o ti va bene insieme? Puoi tirare tutto insieme, basta che non sommi il furtivo entrambi gli attacchi. Come no? No, si sono solo uno. 10. Purtroppo. 15, 20, 23. E la destrezza uno solo, no? Sì. E non ho nient'altro da aggiungere, no? E niente, 27. Ma ficchi lo stocco in una narice. E quindi gli fai molto male. L'hai scaccolato. E lui statutisce. Però. D'altro. Tu ci dai il sistema. Voi ci state dando qualcosa. Il bonus. Sì. No. Cioè, no. Più 3 tiri salvezza diverso. Magari il prossimo turno posso dare un'ispirazione a qualcuno. Sei gentile. Non puoi fare una roba di... Per ora sono 5 miri. Devono suonare gli spiriti. No, sei corpo a corpo. Ah, sei corpo a corpo. Ma posso lanciare una cinquantina? Uno slip e mandare un altro minuto di voce. Grado, sarà una morte. Prende, appunto, reagisce a questa stuzzica dentata che gli è arrivata in una narice e da con una stuzzica dentata. Un'artigliata alla cosa più assi, grossa che ha davanti, che è l'alce. Solo l'alce? Vediamo il tipo di ferita sto drago. Colpire un bersaglio lui poverino. Quindi la cosa più grossa che non può colpire lui. Vediamo tipo se di ferita. È meglio delle due fa la cosa. Vediamo tipo di ferita sto drago. Anzi. Si riesce a leggere? No, perché sono nell'altra pagina. Okay. Riesco a leggere il Lancient. Magari è. No, che è ne ha 450. Se vuoi uso quello. No, 400. Vabbè, mettiti, fai così, mettiti in piedi dietro Kat e fai una bella foto. No, dai. Però e fa 11 danni all'alce. Dal punto di vista del master. Tu devi vedere se master cadi in piedi o rimani pronto. Questo stare che devo fare. È una prova di destrezza. L'avevo prova, ma non ti lo so, non si vede perché non è a fuoco. Ho messo a fuoco. Non te l'avevo scritto. Vabbè, tanto il manuale del giocatore dici in persona? Ma quando, Dio. Quando avevamo ma visto... perché? Ma io pensavo che ci facessero una foto a me. Cioè, guarda, un attimo. Grazie di questa storia. È bella, bella. C'è anche Lens Flare. Aspetta, aspetta. Non impazziamo. No, ma ce l'ho io il giocatore. Che ha scattato. Vabbè, Cutter, c'è una cosa. Tanto un tiro basso. Esatto. No, 7, 26 7, anche fosse stato 10 non avrei passato, quindi siamo a posto, giusto? E allora tocca a me, prono. Si fa così, tiro se l'ho fatto, tiro buttato giù sulla terra e dormo. Lui è seppellito sotto il cadavere di un alce. No, non ho capito così. Mortalace? No, è morta. Caduto. No. Ah. Come al solito. è morta più dei miei. Ah, persone, beh, appena la vede, catta si ferma. Vabbè, era il bersaglio più grosso, fare... statisticamente viene colpita. Ora che non c'è più in mezzo, non c'è neanche lui perché sei sotto l'alce. Cazzo. No, Atanas, ti ricordi che sulla scheda è scritto che è 2,20 m? No, 1,90 sì. Comunque io non gli ho fatto neanche un danno. 1,90 con un effetto del braccio. Io non gli ho fatto neanche un danno. Ma l'alce non scompare quando muore. È una creatura evocata. Sì, è una creatura evocata. Però ci metto un po', tipo il finale di Avengers che evapora. Non è come... Ah no, non spoiler. Fotografi nerd? No, Marco no, perché se bello lo guardo, se brutto non lo guardo. Come fai a decidere? Quindi lo guarderà quando uscirà. Da un morso a race, classe armatura? Come da un morso a race? Dava in base al più grosso. E l'ha tolto di mezzo, adesso è uguale. Ok. Grazie alla matura 15 ti dà un morsicottino che cori ti fa 40 danni da morso 8 e anche un dodge più ogni 4 10 danni di fulmine. Sono in ma di mezzi tutti? No, cioè sono sì. Danno fisico. È un unico solo danno. Danno fisico, mi sa che di mezzo solo danno fisico o no? Briga! Devi guardare la evasion. Ma porca puttana, cioè l'unica cosa che devi sapere non la sai? Evasion di mezzo al danno. Non è evasion, è cambiare il danno di un attacco. Non è tipo il tuo personaggio. Devo fare un tiro salvezza per quello, no? Non mi ricordo, guarda. Che cosa no, dice. No, no, è azione bonus. Comunque non è un tiro salvezza. Non è l'evasion. Può servire a volte. Sì. E l'altro... Sei calmo, ma che ansia c'hai? L'altro graffio a garro. Ti vedo un po' di Garrosh. So hai vantaggio. Io gioco ad Angel, guarda, non sono abituato a giocare a D&D. Ecco, Rogue. Sì, vabbè, ragazzi. 24 ti colpisce, direi di sì. No, anche Annie Dodge. Half the attack damage, quindi tu. Sì. Okay. Quindi quanto io aveva fatto in totale? 18. Quindi 9. Quindi 9. E che lui fa... Anche Garro fa 11 danni diviso 2, 5. Fa schifo. Bene. Come? Guardi strano. Tirarmi su è movimento. Sì. Mezzo movimento. E però poi ci metti due attacchi dopo. Sì. Quanto mi ha fatto? 5 danni. Faccio un altro attacco. Porca miseria. 13, non colpisco. E l'altro sono 23, dovrei colpire. Faccio uno smite di secondo. Vediamo se faccio un po' meno schifo di prima. Sì, forse. Insomma, no, un po' un disastro. 14. 16. 19, 24, 28 danni. Boom. Morto. Per descrivere la scena, lo vedete cadere. No. Dopo Vardistran no, c'è. Io. Ah, l'altro non c'è più. E gli faccio un altro fantasma al forse. Non c'è più cosa. L'alce non c'è. Ah, ho capito. L'alce. Quale lui ha svantaggio? Sì. Punto. Tutto non ci devi andare. Allora, 15. Ci vuole tutto. Fallisce. Ok, allora. Io evoco da dietro Strad che gli dà uno scappellotto, visto che adesso l'ho visto. Ok. E gli fa 4 danni psichici. Okay. Si è dato svantaggio per fargli 4 danni. No, perché adesso lui... Lui è convinto di combattere contro Strahd. Adesso, visto che in teoria la torre è di Strahd. E ogni tour non è di Strahd, però... Vabbè, già. Casimir. E uso anche la mia Bardic Inspiration sul Barbar. Cosa mi puoi tirare un D6 da aggiungere a uno dei tuoi attacchi a tua scelta. A danni o a colpire? È tutto quello che vuoi. Cioè uno solo però? Sì. Cioè una volta usato basta? Quello tipo. Sì, te lo posso dare un altro turno no, se no, vuoi. No. Casimir lancia un altro Magic Missile. Ma non può fare qualcosa di più. Bravo Casimir! Può lanciare una palla di fuoco su di voi. Sì. Beh. Oh, una volta si facevano le palle di fuoco che non colpivano gli avversari. Devi essere della evocazione. Della evocazione. Devo usare punti stregoneri. La buona vecchia 3.5. Esatto, lui purtroppo teme per la vostra incolumità. Ma lui è uno stregone o un mago? È un mago. Vai, ah, la palla la chiamava invitato lui. Cioè, non so, l'ha invitato lui, eh. Beh, meglio di. Se invitavi Strahd era più forte. Sì, esatto. Ora 16, 17, 24, solo uno. Ah, quindi io sono Strahd secondo lui? No, Strahd è dietro di lui secondo lui. Ah, ok. Che l'ha colpito. 6 danni. Con uno schiaffo dandogli in seno di 4 danni. Posso? Ma comunque prende 4 danni a turno. Garro. A turno? A lui non... Quanti danni abbiamo fatto? Voi è il primo? Ah, sei il primo, che cazzo vuoi? Io sono l'ultimo, dammi te. E... Trovo più di 80. E niente, attacca il caos. Continua. Come lo vediamo? Provato. In gran forma? No, bravo. 25. Colpito. Attenzione. Attenzione, ha colpito? 10. Danno. Che botta. Tirato basso. Ah, 12. Per colpire? Sì. Manchi. Poi faccio l'attacco extra. Fanculo. 14. Tiri in merda. Quanti attacchi hai fatto? Non ho fatto il caricamento, hai ragione, non avevo fatto il caricamento. No, non l'ho fatto. Ha fatto tre attacchi. No, non ho detto che mi muovevo. Hai il bonus. Sono dimenticato, ho tirato hai la buona Bardic Inspiration. Sì, ma non uso un D6, se ho fatto un D6. Opportunità. Dai, fallo, catta, uccidilo, uccidilo. Anche se faccio però l'ho usato la reaction, quindi adesso gli... Ma non l'ho fatto, mi sono mosso, ho sbagliato di una data in più. T'ha mancato, cosa vuoi di più? Anche ha usato la reaction. Ha usato la sua reaction, ragazzi, esatto, ti ho fatto un favore. Cazzo. Anche perché lui agisce adesso. Quindi? No. Cioè il turno è finito. Perché se non l'ultimo. Tu puoi attaccare e scappare. No, perché è cominciato il turno. Ma lui può fare lo stesso. 21 con uno e con l'altro non ha colpito. A disengage da ladro, può fare lo stesso, come bonus. Sì, ma... Prega, la bonus usa lo scatto. Ma io ero l'ultimo. Sì, abbiamo capito che hai fatto una cagata. No. Che merda, rega. 10, 14, 15, 19 danni. Le fecchie lo stocco in un occhio e da un cade a terra. Ma no, l'ha stitto sempre. Arriva qua una volta dopo mesi che non c'è. È morto. Sì, esatto. Grazie per i 4 danni. Gentilissimo. Ti ha salvato la vita. Ah, sì. No, se arrivano i lupi. Vabbè, però prima. Sai che è diverso. Esatto. Però devi dormire per usarli, non puoi più dormire fino alla fine della vita. Chiaramente i benefici del nuovo livello li avrete dopo che avete completato il corso. Però intanto potete le cose subito. Vabbè, e quindi cosa succede adesso però? Io uso plasma terreno per barricare. Vedete del movimento nella boscaglia. Sticaz, entriamo nella cosa. Uso plasma terreno per barricare. Bisogna comunque fare la cosa o si apre la porta? La porta non è chiusa. Nel senso, tu puoi la puoi aprire, ma se la apri scatta la trappola. Poi, quindi devo fare i... Volevo fare uno e in teoria la trappola la detto tra sì, disinnescata no. Adesso no, che cos'è? Quindi gioco dei mimi. Entriamo, chiudiamo. Ma voi maghi, pensate che ora che la trappola è stata scardinata, cioè si è persa per sempre? Quanto è durato il combattimento? Non lo so. Quanto è durato? Ovviamente. Allora è appena un tiro, caso! Allora faccio io un tiro di... Faccio io allora, un tiro, aspetta, di, fai tipo... tiro di arcana. Adesso fai tipo un tiro basso. Il lo mio sai, Detect Magic dovrebbe due. Essere un cono. E che cazzo ne so, gli speravo che loro lo facessero, ma Casimir fa... No, posso fare anch'io un tiro? No, non può. Sapienza magica, più 2. Niente. Tira di 30. Sì, c'è ancora. No, è concentration, quindi devo rifare. Faccio il rituale di nuovo. Non puoi, c'è un campo antimagia dentro la torre. Beh, questo è positivo, vuol dire sì, che è ancora attivo. Ah, siamo dentro una torre. Sì, cioè, che altro è che non usa la magia. Cioè, quindi stavamo vedendo se c'era ancora la trappola senza lo Vabbè, con un arcano. No, perché lui sa aprirla. Non hai bisogno. Lui sa come si apre la porta senza far scattare la trappola. Ok, allora entriamo. Sì, ma tanto l'abbiamo. È già scattata la trappola, quindi. No, entriamo, però se in teoria è a posto, siamo dentro, siamo al sicuro, tra virgolette. Se no, siamo in decazione. Cioè, l'unica cosa che ci può salvare è il fatto che in teoria i lupi intanto io scopro che non posso usare la magia dentro la torre, anche un campo di magia cercando di fare cosa se c'è un campo di magia, vuol dire che la magia della torre è ancora attiva. La magia sì, ma la trappola sai, scusa, lui con la tech magic prima sentiva la porta e la torre poi però la tech magic l'ha perso quando ha lanciato. Può fare un'arcana però quello con... Ma faccio sì, fino arcana. Okay. Faccio un'arcana e faccio 3. Ho fatto di più io, raga. No. Va bene, e. Vabbè, allora e faccio arcana anch'io. 5. Okay, ragazzi, perception. Attenzione, 9. Tu non puoi passare. Cosa percepisci? Irina, cioè. Direi nulla, fatto uno. Vabbè, però cosa cercavi di percepire? Io voglio capire se c'è qualcuno nella torre. Io ascolto. C'è qualcuno, non sentite, Irina. Non sentite presenze, rumori. Mando il mio gufo. Neanche con un 20 naturale. Vabbè, chiamo Irina. La tua voce riecheggia nella torre. Irina. 23. Io sento questo. È molto male. L'avevo detto io, liberiamo la torre, ma non c'è. Molto male. Dai, l'avrà presa Van Richter. L'avrà presa Vara. Presa Laz. Ah, è Strad. Laz. Se l'ha presa Strad. Ah, è un grosso male. Vabbè. Che peccato. Non che poteva fare. No. Accidenti. Tanto no, l'avrà presa lui, la batte gli altri. Fino a un po' di tempo fa anche a me, ma vedo che la maggior parte non è Ilio, Ilio, Vabbè, vediamo se c'è su. Però. Vabbè, potremmo fare un riposo lungo dentro. Lui ovviamente non c'è mai stato, quindi ripeterò la descrizione dettagliata. Nessuno di noi c'è mai stato. È vero, c'è stato solo Vez. Va bene, su questa descrizione. Quindi ho più pubblico per la mia descrizione. Eh sì, perché noi, ti ricordi quando abbiamo deciso di portare qui Irina? Loro hanno detto, siccome è un luogo sicuro, meno persone devono sapere. C'era solo Vez. C'era anche Pistrello. Che però non poteva entrare perché c'era un po' di campo magia. Ah, quindi il mio famiglio non può entrare. La famiglia si dissolve se entra con te. Vabbè, quindi si è dissolto. Si è dissolto. Però mia famiglia era entrata l'altra volta. No. No, è rimasto fuori. Com'è rimasto fuori? Ha sentito la conversazione tra Irina e lo stronzo? Era alla finestra. Da fuori. L'ho fatta prima. Era. Ma io il tuo famiglio l'avevo portato, ma non gli avevo neanche fatto vedere niente. No, non era con te, era con Van Richten. E Van Richten l'ha portato. Grazie fino alla soglia. Grazie per avermi avvertito. Fuori, e hanno fatto la conversazione. Mia famiglia, se no. Ritorna quando esci. Puoi rivocarlo? In teoria. Puoi rivocarlo quando esci. Preferivi essere fuori mangiato dai lupi. Lui ha appena perso la sua alce. Dovevamo combattere con sarebbe scomparso se fossero entrati. No, sarebbe comunque potuto entrare. Non può entrare perché non passa dalle porte. Okay, tra l'altro non ha problemi a entrare qui tutto via con l'alce. Questa porta è fatta apposta per alci. Questa porta è capito un bisonte. Magari un tirannosauro, ecco, anche un paio di balene, magari. Però sì, no, un'alce. Hai capito cosa ha detto? Però questa porta va bene per le alci, ci sarebbe passato. Ma vaffa. Vabbè, puoi evocarla. Ah no, c'è l'antimagia. Allo stampo alce. Puoi uscire a evocarla. Sì. Sì, in teoria puoi uscire a evocarla e rientrare. E svanisce. No, è il corvo, non so. Sì, il corvo potrebbe. Beh, il corvo è un essere. Corvo è un animale. Il salotto. Il suo salotto. Ciao Zinino. Ciao rega, buon anno. Ciao Sara. Saluta i follower. Ciao follower. Ci vediamo sul mio podcast ogni sabato mattina. Yeah. Yeah. Ma parlano di cinema. Io ogni sabato mattina dalle 7:30. Cosa? 7:30 esce. Ah, registrate alle 7:30. No, registriamo la settimana prima con calma. Quindi avete già la prossima puntata? Già sì, perché non posso registrare adesso. No, non credo di averla realizzata. No, non sono nello studio. Non sono live. Di Tronisberg. Non sono a Trono. Di Fractal. Sono a Frower. Non posso registrare. E poca droga. Farenth. E ciao, buon anno. Ciao, sì, e buon anno. Grazie di tutto. Vi devo. No, non vi devo dare un cazzo. No. Buon Natale. Buon anno. Ci vediamo a marzo. No, ci vediamo lunedì. Cosa? Lunedì. Ci vediamo lunedì su Tigons and Dragons. No, non sappiamo quale lunedì. Non giocate il lunedì? Un altro lunedì. Non giochiamo lunedì. Di lunedì. Cioè, ci vediamo i prossimi lunedì, ma non il prossimo lunedì su Tigons and Dragons. L'anno prossimo. Ah, quindi giocherai, continuerai a giocare. Sì, posso, sì, se ho tipo 200 pezzi natali come le ultime volte, no. Nessuno te lo impedisce. È un problema dietistico. Sì, io non posso perché ho Natale. Avevo le feste di Natale. Un Natale, invece no. È un problema di dieta, vero? Io non posso perché devo allenare. Pali? Napali? Napali? Capali? Tapali? Ci vediamo dal vivo a marzo. Se mi danno le ferie. Bravo. 12-13 marzo. Ah, ci sarà una sessione. La laurea di... Tu dove vai? Chiedo. Perché hai fatto quella faccia? No, non so. No, Anna, tu il 19 li compri. Non viene. Sì, no, per Giulio li compri. La casualmente, però lui viene per la laurea di... Casualmente anche quest'anno compierò gli anni. No, casualmente lui torna in quei giorni perché c'è io la ho sentito prima di... che già cazzo mi tocca invitare. Okay. Edo si laurea al 13, bastardo. Non organizzi un festino a Kronisberg il... Kronisberg. Il 19. Il 19, non sì. Ci paghi i biglietti? Sì, partina, sicuramente. Vi pago Tivoli se venite. Vabbè, ma facciamo come l'ase, non stiamo a dormire. Torniamo la sera stessa. Se venite vi pago. Fa la tua manovra. Facciamo la festa a Tivoli. Ci sta. Però il biglietto è quello. Ci sta, onesto. Dell'aereo. Onest. E costa 20 euro, raga. No, effettivamente se costa 20 euro. Di morte se ci dici la prendiamo già adesso. Questo l'avevo già detto un'altra volta. Che andare corretto. Che giorno è il 19? Siamo. È vero. Che giorno è il 19? Sarà venerdì? No, giovedì potrebbe essere. Perché è 7 giorni lavorativi da adesso. No, dopo 12. Quindi saliamo sulla torre. È un giovedì. Oh! Ciao, ragazzi. Buon viaggio, Metz. Salutami, Ema. Ehi. Ma andate a Lubiana? Lubiana. Mi ha detto che è una bellissima città. Ciao. Sì, no, di in realtà alcuni sì. No, però... mi hanno detto che è una bella città davvero. Non so a Capodanno che cazzo ci sia. No, siamo post Capodanno. Ok, non so post Capodanno che cazzo ci sia. Sì, 33 euro non da... Ciao. Ah, costa pochissimo andare a Copenaghen. Dovrebbe tornare. Ryanair tra da Bologna. Ciao, dai, ciao Digno, a presto, mi raccomando. Grazie a tutto. Grazie a te, grazie ciao. A te, ciao. Bene, saliamo riposiamo. Batti le mani. Allora, io vorrei esplorare per capire cosa capisco. L'unico problema è che c'è un aereo ogni 3 giorni. Ma siamo a livello troppo alto, questo era troppo facile. No, beh, vabbè, mentre salite. Poi non salire. No, ma lui saliamo intendeva la torre. Ma saliamo adesso o combattiamo anche i mannari? Mi sa che... non lo so se possiamo... Tra l'altro no, siamo inculati. Siamo in un campo antimagia, cazzo. A combattere i mannari in un campo antimagia siamo inculati. No, beh, scendiamo, usciamo. Beh, usciamo nel caso, ma loro non entrano, c'è la trappola. Non sanno come entrare i lupi. No, bisogna capire se la trappola gliel'abbiamo... La trappola la sapevano perché l'ha fatta scattare loro. Sì, però non sanno i gesti per aprirla. Come fai a sapere? No, il problema... Cazzo fa un lupo, si mette a fare così... Sono lui mannari. Sì, che palle. Oh, se lui ce l'ha fatta... In effetti non era molto difficile da capire. Che palle, vabbè... Torniamo a Nel senso, non è che è una cosa impossibile devi decifrare chissà cosa. Torniamo a Calestria, ci riposiamo... Vabbè, intanto fatemi vedere qua cosa riesco a capire cosa è successo. Allora... facciamo una sorta di investigation bisognerebbe fare un'investigation. Dai, investigation. Aspetta, fermi tutti. Io c'ho l'investigation. Fermi tutti. Quanto dura la descrizione? No, beh, vabbè, descrizione non interessa. La giornata la trovo, se non te lo ricordo. 17. No, non interessa, Marco. 17. Ma non l'ha vista nessuno di noi la torre? Ma non interessa neanche. 17, è una torre. Scrivo io, è una torre. Ci sono lunghi torri, lunghi posti, ci sono lunghi muri verticali, tondi. E circolare questa torre, sì. Ci sono dei piani ottagonale. Che non... è ottagonale, sì, non è... sono tondi, allora ottagonalmente tondi. 17. E okay. Sono difficili perché ci sono dei piani dove non si riesce ad andare perché è distrutto o bruciato. E basta. Semplicemente le vecchie, no? C'è della paglia e poi c'è la passerella distrutta sopra. Okay. Che c'era una stanza dove c'è un montacarichi per spostarsi. Me lo ricordo. Ed è azionato, beh. Pensavo fosse una battuta mia. No, cioè davvero. Da una leva. E se non hai Eva, non hai la leva. Infatti non c'è una leva perché non c'è Eva. Esatto. Ma ci sono quattro. Bui. Buoi. Bui. Gettoni. Quattro. Corde. Bastoni. Draghi. Pistani. Golem d'argilla. Giusto, gli devi dire golem d'argilla. A te dove stanno? E lui comincia a correre. Ah, c'era una stanza pelirina. Questa è la base. No. Ci sono queste quattro statue che tirano, azionano questa. Giulia, ascensore. Ho fatto 16 per ignorare. 17. È un montacarichi che arriva fino in cima. Ho fatto 20 naturale sulla volontà per ignorare la descrizione. Ho fatto un altro 23. Hai più 3. 23. 23, esatto. 2, 23. Questi due piani sono rovinati. Dopo aver fatto un 1. Quindi questa è l'ultima sessione dell'anno. È così. Rischia di far crollare il pavimento. E lo stesso montacarichi che è vecchio, rovinato, e non può sostenere troppo peso. Che sono le musiche da Capodanno? Il trenino, quelle classiche, volete... Ciuf ciuf. Vabbè, sì, boh. Sarà in Capodanno che fai. Il trenino ha una musica particolare. Per azionare la montacarichi basta ordinare di alzarlo o di abbassarlo. Era proprio un loro ascoltano solo ordini rilevanti nella movimentazione del carico. E qui fuori al lato c'era una impalcatura che arrivava fino al terzo piano, che però quando siete arrivati avete visto che è crollata. Okay. Hai mentito. Speravo. Quindi possiamo tutti riposare. Ma sai che sono le prime che sente, allora gli piacicchiano anche quando le senti tante dopo un po'. Non lo so, dai, cosa ha fatto un gran numero? Cosa? 17, sì, lui si mette a investigare. Sherlock Holmes. E quindi immagino che per farlo sia il primo che sale sulla... saliamo tutti insieme? Sì. Non vi raggio. No, bisogna salire uno alla volta. Vecchio rovinato, quindi allora troppo peso rischia di... Sì, rovinarsi. Giulio, vai, guarda. Questa è la prima volta che tu entri. Sì. Ma so già come è fatto. Ma sei già. Bene, era descritta Vez prima di arrivare. Mentre sali i piani, noti che al terzo piano, dove quindi c'era la voragine, il buco nel muro che collegava la impalcatura esterna. Dalla quale potevi entrare all'interno, e noti che non ci sono all'interno particolari segni di colluttazione, anche perché difficilmente il pavimento avrebbe retto delle sollecitazioni di quel tipo. E quindi sì, di fatto prendo la spada e inizio a picchiare il pavimento. No, scherzo. Quindi di fatto chi nessun essere, diciamo, bipede è passato da questo piano camminandoci sopra, altrimenti avrebbe lasciato delle tracce nella polvere. Quindi qui è tutto polveroso, non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo nel terzo piano. Perché vuol dire, se invece c'era quattro zampe, non lasciava... Ne lasciava il doppio. Se n'era una, ne lasciava la metà. E quindi Irina dove l'avete lasciata? Non ci sono impronte. Ma Irina stava al quarto piano. Sì. Ah, vabbè, vado su. e arrivi al quarto piano, dove invece è tutto più nuovo, diciamo. C'è una stanza con un letto arredata ed è deserta, non c'è anima viva. Segni di cibo lasciato. Avete lasciato del cibo alla poverina. Cazzo, bisognava fare dei buchi per l'aria. Sì, anche quello. Boh, sì, certo, ovvio che abbiamo lasciato del cibo. Anche se ormai è un vampiro, quindi non mangia. Sì, beh, trovi dei segni di recente, di un recente inquilino. E sebbene il posto abbia un po' di muffa nei muri e umidità alle pareti, comunque c'ha i suoi comfort questo appartamentino. La latrina. E c'è la finestra. Cosa? Cagava fuori dalla finestra. Mi affaccio alla finestra per vedere. Mi spiace. Se ci sono segni recenti. Non sono. Di, non sono di deiezioni recenti. Almeno non le ultime 24 ore. Per quanto non sappia Zemifo quanto tu sia vedere. Esatto, non so quanto tu sia esperto di feci. Altre cose in questa stanza c'è una cassa, un baule di legno e un'armatura, quelle decorative in piedi con manichino. Apro le mani dell'armatura. Attaccate al soffitto ci sono le catene che tengono il carrello. Apro le mani dell'armatura. Vedi il manichino che manca. Okay, non è nascosta ieri, perché non ci ha provato. Carino. Come si dice, il manichino, il supporto. Sì. Su. Vabbè, pezzi per la mia armatura. Dico, non c'è nessun segno di Irina. Spiace. Sei una merda, abbiamo fatto tutto sto casino perché tu vuoi salvarlo. Ho messo Gianni Morandi. Grande, 13. Oh, cosa messo? Polo. 13. Vai dentro. C'è un gran Polo. Hai fatto una delle canzoni col testo più intenso che lui abbia potuto scrivere in realtà. Ma scherzi, guarda che lui è forte. Sì. E sì, diciamo che purtroppo siamo arrivati troppo tardi. Questo è un chi problema. Non ci sono tracce, quindi niente. Non c'è nessuna traccia che dica, che faccia capire se ne sono entrati a prenderla, dove sono entrati. Guarda dalla finestra. Avevi controllato dall'entrata, non c'è. Guarda dalla finestra. Comunque non c'è segno di lotta. Controlla dalla finestra. No, sapendo che il tizio è alato, esatto, e che i vampiri possono camminare sui muri. Controlla dalla finestra. Magari sono entrati dalle finestre. Le finestre sono sbarrate. Ma non devono essere invitati a entrare. Non vedi segni di vampiri, sì, di qualcuno scasso, diciamo. Un altro no. Allora dai, ci sarebbe segno di lotta, qualcosa, avrebbe provato a difendere. Non c'è nessun biglietto, nessun coso, non boh, tornerò, boh, mi avete lasciato qui, mi avete messo rotta il cazzo, cioè una roba tipo. Guarda nel baule. Il baule senti si sta più comodi. Profumo cosa? Di lavanda. C'è un cadavere. Profumo di lavanda. Ah, quanto è grande? Il piano di Irina ci sta. Può stare una persona? No. Ok, so, poi okay. Tagliata sì, a pezzi. Ci può stare, ma cioè, non è, sta può essere una progenie nascosta. Questo non è una cassa da morte, è un baule. Ecco. Allora, colpiscilo prima per vedere se grida. No, trafiggo il baule. Niente, la tua spada si infila nel legno. No. No, ha senso, però no. Potrebbe essere un mimic. No, non è un mimic. Lo diamo fuoco. Esatto, al massimo dare fuoco alle cose. Sì, qualcuno ha piccato un incendio. Non gli fai abbastanza, fosse un mimic, non gli fai abbastanza danno e poi ultimamente. Invece se lo colpisci tu per prima con tutta la tua forza, ma vabbè. Questo per la prossima mimic che incontrerete. Poi che ti togli anche l'arma, perché non la puoi estrarre. Perché capisci cosa. Bravo, me ne accorderò. Vabbè, non dare idea al master che potrebbe dando io ho solo delle armi, guarda Marco, tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te. Quindi era divertente perché ero tipo un coboldo monaco, ho colpito un mimo che ha preso la mano, l'ho colpito, ho preso l'altra mano, ho dato un calcio. Bello, gioca via a Twister col mimic, bello. Ci sarà una prova per liberare la cosa. Un athletics, non mi sembra. Allora, apri il baule. Sì. Il baule è... C'è la lama della tua spada che pende. Il baule non è chiuso a chiave, beh, si può aprire normalmente. C'è la spada che tiene. Ed è sicuro, non ci sono trappole. E all'interno trovi una testa mozzata di una donna dai lineamenti tipici dei vistani. Non ci giù la testa, è questa? Questa diavanda. La sua pelle, esatto, è stata spalmata di un olio ceroso, una cera. E, hai trovato i rini, ora? Non aveva i rini. Appunto, porta questa, adesso non se ne accorge, va bene lo stesso. Ma quanto è morta? Non sapresti dirlo, perché è stata conservata. Ma non c'è sangue? No. Come se fosse... Non è fresca, ecco, quello è, quella è la... Ma non solo la testa. Non ha ferite ricucite. Rega, ho trovato qualcosa. Cosa? Acchiappa. No, vabbè, portala giù con te. Ok, faccio un tiro di acrobatics per prendere al volo la testa. Che riesci a prendere? Ma è solo la testa? Ah, ho capito. No, è solo la testa. Ma è cosa? Ah, scusate, è smeralda. No. Ah. Non è smeralda. È solo la testa. Cosa ne è stata fatta, scusa? Ah, c'è una testa di una vistana. Non l'avevi lasciata a Dirina come cibo, vero? Boh, si mangia tutto del vistano. Il vistano non si butta via niente. Conoscete altri NPC femminili che potrebbero essere? No, è stata usata per farne un porta lavanda. No, è una testa lasciata nel baule. Ma scusa, tu hai detto che sappia di lavanda. C'è odore di lavanda. E non puzza questa testa. Profuma di lavanda. L'hanno messa apposta, no, perché è non è incerata. È conservata. Un po' più. È terribile questa cosa. Creepy. Quindi sembra quasi che l'abbiano messa per farla trovare. Non può. Dove l'hai trovata questa cosa? Nel baule al piano in cui abitava. Se possiamo raggiungerlo al piano lì o sì, o crolla. Questa torre mi sembra molto abitata. Allora, sulla. No, al mio piano potete raggiungere. Sì. No, non puoi venire però uno alla volta perché l'elevatore la... Si vedete anche. Vabbè, vado su anch'io, dai, così vedo un po'. Non regge troppo peso. Porto su con me la testa. Okay. Troppo peso la testa. Perché l'ha lanciato giù da bere? Sì, ovvio. Beh, è già tanto che non gli ha dato fuoco. E... I morti sono i fortunati. Quindi c'è il coso, c'è l'armatura. Il letto. Il letto, gli avanzi, il cibo. Lo so che è una domanda ovvia, ma ce l'avresti detto, non avevo mai visto quella faccia. No, neanche facendo un tiro sulla memoria. Posso fare un tiro? Non cominciare, lo sapevo. Faccio un tiro di religioni. Religione. È una zingara, cosa c'è da me? No, magari. Quindi non posso farlo perché l'ho lanciata giù. Punto che utilizza le teste dei vistani per qualche rito particolare, oppure c'è qualche setta che utilizza per un... Aspetta però, che ne so, però. Questa era la torre dove si nascondeva Van Richten, esatto. Noto genocida di vistani. Io quello che ho detto, non può essere un messaggio di Van Richten che ci ha lasciato. La testa c'è scritto qualcosa, è balsamata, sì, tra virgolette, è ricoperta di questo olio, puliscila, oppure l'olio è infiammabile, fumato per conservarlo. C'è qualcosa nella bocca? Ma no. Allora, io l'ultima volta che c'ero andato c'era il baule. Non però non c'è la testa di vistano nella foresta. Non mi sembra. Ovviamente no. Però. Beh, non ci credo che gli è scappato. Si è trovato una testa di vistano. Oh mio Dio! Prova a pulirla dall'olio. Magari. Qua ci stava Van Richten, è vero. Perché avere un... Magari conosce un po'. Scusa, e se proviamo... Io, se proviamo io a religione per sapere se magari qualche rito. Vabbè. Che può... Se proviamo a catturare un mannaro e interrogarlo? 6. No, 9. Vabbè. Puoi ricordarti che esistono degli incantesimi che ti permettono di parlare con i morti. Ci vorrebbe un chierico. Esatto. 22 religioni. Se solo avessimo un chierico. E vabbè, e non essere nell'antimagia. Quindi qual, questa qui potrebbe sapere qualcosa e lui potrebbe averla tenuta qui perché sapeva qualcosa. Interessante. Cosa però? Tu non puoi averlo, Speak Windel. No. Però se l'ho trovato in un libro lo posso copiare nel mio. Certo, e posso usarlo. Siamo pieni di libri. Beh, magari c'è una biblioteca. Chiediamo a Casimir se c'è. Ma questa era la torre di un mago, era. Sì, ma non c'è. A parte il baule. Ma che ne so, non abbiamo mica. L'armatura. Ci sono la biblioteca, ci sono dei libri. Non vedete. Sembra una normale armatura o. Cioè. Sembra una normale armatura, almeno non vi ha ancora attaccato. Mi tolgo l'arma. Memoria da. Hai la spada. Sicura. Hai la spada del. Dell'armatura. Me la tengo. Ok, guardiamo dalla finestra. Una spada lunga in più non fa mai male. Vedete che ci sono una dozzina di lupi. Sì. Tutti lupi. Lupi. Che sono. Che gironzolano dall'imboccatura della passerella. Il congiungimento tra la passerella posso e la terraferma. Con l'arco lungo sì. Ma qui sotto quindi? Sono qui sotto? No, dall'altro lato. Dove la passerella arrivi alla... Sono dall'altra parte del lago? Sì. Ah, ok. Quindi ci arrivi perché ha 300 non so quanti piedi, ma... Sì, 150-600. Esatto. Sembra che non ci sia niente in questa torre. Sparo. Ciao. Sparo con svantaggio ai lupi. Uh-huh. Anche no. Usciamo tutti insieme nel caso, aspetta. Ma io 17. Sarei per rimanere qui qualche ora a riflettere sul da farsi. E 9. Ok. Uno lo perché uno, in realtà la freccia colpisce un loop. Tanto 10 danni. Stiamo fare un bel riposo lungo. No. Lo ferisce. È un riposo lungo e guadagnare il livello. Riposo lungo anche per fare il punto della situazione. In realtà penso qualche ora per ragionare sul da farsi. Perché ok, andiamo via da qui e stare a prendersi delle frecce. Sì, esattamente. No, però in realtà non avremo tempo per fare queste cose. E dove andiamo? Uccidiamo i lupi. Dove andiamo? In realtà tempo non ne abbiamo, cioè dobbiamo tornare a cercare a sto punto le tracce di Varrit. Esco intuito, dalla torre. Secondo me lui si è preso in. E sto lì dall'entrata e mi faccio vedere. Non vedo perché avrebbe dovuto farlo. E urlo. Ho sentito delle urla venire fuori dalla torre. Perché? Sono uscito e sta iniziando. Sto urlando dove sono uscito. Cosa vuol dire uscito? Siamo lì, cioè nel senso cioè, è sopra, che cazzo, lo vedremo. Cioè, non sì, è che tipo mi sto parlando un attimo. Lo stai fermo! Muto devi stare. Io ho sparato a dei lupi con l'arco. Poi, visto che loro sono scappati nella foresta dopo che li ho colpiti, scendo e esco. E mi metto lì fuori dall'entrata per cercare di farli arrivare. Esco anch'io. La posso alla Giulio. Vabbè, mentre i posi giocano così. Ma no! Intanto decidete cosa fare. Cioè, non è secondo problema. Me no, è qua purtroppo l'hanno presa e dove l'hanno portata? L'hanno portata la strada. Quindi adesso l'unica è cosa persa, è cercare di parlare, spiace. Trovare qualcuno che possa parlare. L'hai persa, spiace, dobbiamo cercare di recuperare Van Richten se riusciamo. Sì, aspetta però. Potremmo anche provare a parlare con questo canale. No. Vabbè, adesso non giù a fare coglione però. Allora, cosa abbiamo ieri? Dobbiamo cercarlo, non sarà da qualche cosa parte. Niente, sto cercando di attirare lupi. Due cose che possiamo dobbiamo fare. Una sarebbe recuperare Van Richten e l'altra sarebbe andare a Vallachi a parlare. A Vaccar non si fanno vedere. Vaccar dobbiamo cercare di trovare un accordo commerciale. Vaffanculo. Prima c'erano. Sì, non adesso. Sì. Poi gli ha tirato delle frecce. Cioè, prima adesso li sto tirando e sono uscito dalla torre. Ma è anche perché qualcuno ha provato a seguire le loro tracce. Vabbè, mi allontano un po' dalla torre fino all'inizio del pontile. Dell'elfo che è uscito. Cioè all'inizio dalla parte della torre. No, io andrei a cercare Van Richten e poi dopo andrei a Vatter. Grazie, non lo troviamo. Però adesso che ore sono adesso? Tipo quasi mezzogiorno? 14. Siamo partiti la mattina, ci avete messo a 2 ore. Mi sono la mattina molto presto. Siamo pariti all'alba. Ok, quindi mattina molto presto. Sarà possiamo indietro. Sarà tarda mattina. Ci mettiamo 4 ore per tornare indietro. Dobbiamo sconfiggere 1000 lupi. Esatto. 14. Vedi qualche movimento nella foresta, ma non riesci a distinguere. Continuo a armarmi contro. Ok. Va bene. Non si sente, non si sente. Mi piace a descrivere. No, beh, però... Lupo alza la voce. Ci facciamo dei conti. Oh, Lupo alza la voce. Cioè, noi abbiamo il corvo con noi. Potremmo eventualmente il corvo mandarlo, e non ci metterà tanto, da spodarci, perché ci venga incontro con delle cavalcature, per dire. Cioè, ci viene incontro lui e tracce, meglio andare ci contro lui, poi se dobbiamo seguire le tracce meglio andare a piedi. Sì, però noi per seguire le tracce dobbiamo tornare indietro comunque. Alza la voce. Ma magari aspetta, magari sono delle tracce qua intorno. Possiamo prima, intanto che arrivarci, cercare i lupi, cioè o andiamo e sgominiamo i lupi. Per quello sono fuori. Alza la voce. Quindi andiamo e sgominiamo i lupi. Mandiamo il corvo o no? Alza la voce. Sì. Corvo, gli diamo un messaggio e lo mandiamo a Kresk. Ah, io arrivo. Il messaggio è scemo chi legge. Sì, il messaggio è scemo chi legge. Il messaggio è torre vuota. Pancia piena. Rientriamo. Lupi negli abissi. Lupi nei dintorni. Testa profumata. Torni. Dobbiamo rientrare. Vienici incontro con cavalcature. Ok. Firmato. Firmato i soliti coglioni. Dai, comunque, in realtà, se adesso strada Irina, la mia missione è finita. Potrei andare da strada e chiedergli quanti di sono più o meno i lupi. Avete visto almeno una dozzina. Solo per una questione di tempi. Sì, facciamo la prossima volta. Va, dai, facciamo adesso. Io dovrei andare, devo andare alle 6. Cioè, se volete farlo senza di me, o volete no, devo andare se ve lo concede. Ah, devi andare anche tu. Sì. Allora, non è qua, saliamo di livello però. Sì. Però non possiamo usare. Quindi saliamo alla prossima. Saliamo o non saliamo? Salite, ma insomma, i bonus che vi viene dal nuovo livello ve li prendete. Poi chiaramente tutte le nuove cose che richiedono un riposo le avrete dopo il riposo. Quindi ho più 4 di bonus. Tipo la vita la prendiamo o la prendiamo? La vita la perdete. Ah, il dado di vita. Ah, oh, devo cambiare tutti vita. I tiri. Tiriamo sto dado vita. Ma che palle. E più niente, solito 5 più 2, 7. Dado vita 10. Bam, lo sapevo che i miei dadi quelli che non uso da una vita del goblin. Se uno fa schifo la media 5 prendo 7. La media di un di 12 quant'è? 6. 8. Beh, grazie a te. Beh, 6.5 è 7. 7. Ah, quindi un di 10 è 6. No. Quindi 11. Quindi 10 e 6. Ah. No. Io ho 8. Non lo so. Io ho 60. Io spero la metà più. Cioè, di solito. Sì. Io allora, prendo 11, Giulione. 4 e 2. Cosa cambia per 12? Tu ne prendi? 11. 4. Scusa, il D8 prende 5. Il D8 prende 5. Il allora, 10 prende 6. Ah, allora 4 e 9. Perché la metà sarebbe a metà per due numeri, quindi per quello più alto. Tu più 11, quindi. 11. Ho sempre uno negativo, vero? Che svanisce perché salendo di livello tutti sanno che. Devo aumentare il tesoro Celtic ora accanto a te. Sì, ah, le gomme sono finite. Non le trovo più qua dentro. Sì, si è pieno. Ah, di qua, ho trovato. C'è anche quella di 13. Devo aumentare tutte le statistiche 96, di 1 parentesi 95. Ah, è vero, queste sono le statistiche. Perché la competenza va più 1, io ho già tre volte. Perché una volta in questa avventura l'altra è curato, ovviamente. Sai, cosa? L'unica volta che l'ha già curato mi è passato. Ho più 11 in ingannare adesso. Lines. Sì, esatto, là. Io faccio più ogni manovra. E quindi andiamo full. Beh. No. Eh sì, se fa passare di livello. Sta spiegato che. Sì, sì, come nei videogiochi. La barra si riempie di nuovo. Ottavo ability score improvement. Tu quante abilità hai adesso? Ho fatto un più 8. Ma come funzionano i miei poteri se non posso comunicare con. Gli incantesimi rimangono. Identici, non mi chiami un cazzo. Cambia classe. Dopo ti rubo il... È il 9 che ho cominciato a avere. Quindi adesso Strahl mi sta dando i poteri. Ora che arriveremo al 9. No, no. La prossima sessione andiamo al 9. No, posso aumentare un po' di tipo di incantesimi. Ho un ability score improvement, però che è utile. Io posso lanciare la palla di fuoco se devo a riposo breve. Sì. Sto pensando. Io mi sa che metto 20 in forza. Anch'io mi sa. Perché un talento mi sembra inutile. Oh, posso prendere finalmente Misty Vision. Sì, perché col 20 in forza cambia un po' tutto. La proficiency aumenta, no? Sì. Più 4? Più 4. Oh, grande. A me è più 3. Non cambia. No, tutte aumentano. Non dipende dal numero. Ognuno ha il suo. A me non aumenta. Sì, io ho un punto abilità e basta. Basta, sei un mentitore. Io ho solo un punto abilità. Marco, guardaci. Io ho solo un punto abilità. Non c'è il suo. Che schifo. Più 5 facciamo, dai. Più 5 più 1. Vabbè, io lo metterò in forza. Però... Tutti siamo aumentati in forza. Però no, destrezza ma appena bisogna di mettere di più uno a tutto. Non posso. Sono tutti guerrieri. Se no in destrezza per la CA. Ci proviamo. Non lo so. Ah, avete l'ottavo. No, non è più 3, è il nono che mi diventa di 4. Che due coglioni. Dici che ci sta in forza e basta. Vabbè che tanto... O in costituzione te potrebbe fare. Sono i 18 in entrambe. Perché sennò pensavo addirittura alla destrezza per la classe armatura. O gli prendi un talento. Come funziona? Vai a guardare i fits e invece del. Invece del punto abilità prendo un talento. Perché non ti aumenti la costituzione? Prendi un sacco di punti vita in più. Sì. No, perché. Sì. No, va a 19, non mi cambia il punteggio. Ah no, sì che cambia il punteggio. Va a 20. Può essere a 20, aversi un più 1 per ogni livello. Esatto, quindi 7, quindi 8. 8 punti di ferita in più, sì. Quello. 15 con la forza. Aversi 8 punti di ferita in più praticamente. Oppure forza in cui fai più danno. Che ero indeciso, lo ripeto, in realtà con la destrezza, che è andare a 19 di classe armatura invece che 18. Dici che non cambia tanto. No, l'unica possono esserci a volte dei talenti caini. Io boh, ci guardo, ma probabilmente farò il coso. Chi è il giocatore? Beh, intanto direi che possiamo salutare chi ci ha seguito per tutto quest'anno. E vi diamo appuntamento con l'anno. Addio, amici, addio. Addio, amici, addio. E vi dobbiamo lasciare. Porco. Ehi, vi dico che è tutto ok. Molto bene, me la ricordo più. Avete visto la 20ª stagione, no non è vero, avete visto il 37esimo episodio della maledizione di Kat, avete seguito un altro anno con Tycoons & Dragons e RIPGDR, ci avete visti, ci avete sentiti, beh, ci avete comunque, ridendo e scherzando, ci sono 14 commentato. Anni che giochiamo. Minchia, davvero? Siamo in diretta ormai metà del nostro diciamo con questa formazione adesso senza contarmi fratello coso meno sono tipo coso che sarebbe 10 tipo 10 coso mio fratello coso mio fratello ma abbiamo un messaggio per voi per fine anno ed è